Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Un estratto da Discorsi alla Nazione, studio per uno spettacolo presidenziale, di e con Ascanio Celestini. Ho pensato che questa sera non farò uno spettacolo, ma farò, diciamo, un intervento politico. So che insomma, che posso, con questo posso chiamarvi compagni e compagne. No? Se qualcuno ride, perché che immagino che non siete più abituati, però... Io, dal mio punto di vista, voi arrabbiate, voi incazzati, cioè voi indignati, dal mio punto di vista siete sempre quei proletari di tutto il mondo, anche se i proletari alzino la mano, non vedo nessuno, ma se due, uno, vabbè, non importa, vabbè, non vedete vergognare di essere borghesi, insomma, ormai è una cosa carina, cioè fa comodo avere acqua calda, no? Cioè, i borghesi sono quelli che non arrivano alla fine del mese, i sottoproletari sono quelli che non iniziano neanche al mese, per cui, cioè, non è una cosa brutta l'acqua calda, il gas entro casa, io. Anche il fotovoltaico è una cosa molto bella, è ecosostenibile, però insomma, voglio dire, un'africano a Rosarno, cioè, però se mettessi il pannello fotovoltaico sarebbe meglio, no? Il forno, no, io mi chiamerò compagni e compagne, anche se sì, io non sono un compagno, io, come alcuni tra voi, sono un padrone, però mi piace chiamarvi compagni e compagne, perché penso che queste siano parole bellissime, bellissime. Quindi, cari compagni, cari compagne, vedete, noi un tempo abbiamo preso i proletari, i sottoproletari, molti di voi, dei vostri nonni, dei vostri bisnonni, e abbiamo fatto credere che noi eravamo i padroni della terra, come se qualcuno potesse essere veramente il padrone della terra, capito? Ma chi sei, Nembo Kid, Superman? Noi però ci siamo riusciti. Noi abbiamo detto a questi proletari e a questi sottoproletari che potevano lavorare la terra per intero e potevano prendersi la metà del raccolto che avevano raccolto da questa terra, e questi proletari hanno pensato che, e quindi molti tra i vostri nonni e bisnonni, i vostri prozii, no? Hanno pensato che portavano via a noi padroni la metà delle nostre proprietà, in realtà eravamo noi che rubavamo loro la metà della loro fatica. Loro si svegliavano all'alba, noi ci svegliamo a mezzogiorno, loro mungevano la vacca, noi bevevamo il lattuccio caldo. Perciò, cari compagni, cari compagne, grazie, a nome di tutti, veramente, sarà bellissimo andare avanti così per secoli. Fino a che a un certo punto i compagni, le compagne, i sottoproletari si sono arrabbiati e si sono arrabbiati contro di noi. Ma è giusto, veramente, io non mi sto lamentando di questo. Cioè, è giusto, chiunque avrebbe fatto la stessa cosa. Noi, per esempio, ci avremmo messo anche molto meno. Però ognuno ha i suoi tempi ed è bene che ognuno, cioè, utilizzi la propria coscienza come può e come vuole. E siete stati voi, cari compagni, che ci avete spiegato che avevate preso coscienza proprio grazie a noi. Perché noi avevamo raccolto dalle vostre officine, dalle vostre campagne, come briciole sparpagliate su una tavola sparecchiata, avevamo messo a lavorare uno sull'altro nelle fabbriche. Cioè, avevamo unito come cinque dita in un pugno. È vero, no? Guardate che bel simbolo è questo. E l'avete inventato voi, mica noi. Veramente, noi avevamo il segno della croce. Voi invece questo, è bellissimo. Noi avevamo il saluto romano. Voi questo, vedete? Oh, è una piccola magia. Io lo so, è molto facile. In maniera provocatoria, anche lo spettacolo precedente ha messo accanto, no, Mussolini e Gramsci, e Gaber e Battiato, no, Topo Gigio, Nonna Papera, perché è un po', cioè, la nostra visione del mondo è una visione complessa, articolata. Noi l'abbiamo messo a lavorare uno sull'altro nelle fabbriche, e voi lì avete preso coscienza, è vero, no? Coscienza di classe. Questa è una parola vostra, è una parola bellissima, noi l'abbiamo imparata da voi. Bene, noi che eravamo i padroni, a un certo punto, grazie a voi, siamo diventati la classe dominante. Questo è un termine di Marx, è una parola bellissima. Quanto è più bello utilizzare questo binomio dominante-dominato, che sembra quasi come dire io sto sopra, tu stai sotto, eh? È vero? È anche sfizioso. Oppure egemonia subalternità, no? Questa immagine gramsciana, come scientifica, rispetto a serve e padrone, che fa schifo, non si può sentire, fa cagà, veramente, è orrenda. Queste sono parole vostre, noi le abbiamo imparate da voi, cari compagni e cari compagne. A un certo punto noi abbiamo messo a lavorare su macchine enormi e costose che voi non avreste potuto comprare in un'intera vita di lavoro, sulle quali operavate come scimmie ammaestrate, tira una leva, spingi la leva, tira la leva, spingi la leva, spingi il bottone, prendi il pezzo, mettilo sul nastro trasportatore, mandalo nel reparto sabbiature che non sapevate neanche dove cazzo stava il reparto sabbiature, è vero o no? Noi pensavamo di avervi semplificato la vita, invece voi vi siete arrabbiati contro di noi, ci avete detto che non era più lo strumento. Che veniva utilizzato dall'operaio, ma era l'operaio che faceva partire lo strumento, cioè che l'operaio era meno di una sega, capito? Meno di un martello che batte su un chiodo. Ci avete spiegato in maniera incontrovertibile che semilavorare o non semilavorato significa che alla fine della giornata hai prodotto un tubo e non sai se quel tubo diventerà lo scarico del cesso o la canna di un fucile. Questa cosa l'avete chiamata alienazione. Beh, è un'altra parola vostra. L'abbiamo imparata da voi ed è un'altra parola meravigliosa. Io quando penso a questa parola alienazione, sai, mi vengono in mente, sai, quei film francesi, quelli L'alienazione, no? In bianco e nero, non capisci un cazzo, però belli, divertenti, quelle musichette, no? Di sottofondo, tipo quando bevi il cocktail. Cari compagni, cari compagni, a un certo punto noi co cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato la democrazia. Cazzo, ancora oggi voi scendete in piazza per la Costituzione, è una cosa commovente. Cioè, è bellissimo. La democrazia, cioè la straordinaria opportunità di poter votare per noi. E voi ci avete presi in giro a quel tempo, oggi non più, lo so. Oggi non più, figuriamoci, il rispetto per i presidenti. Ma che cosa meravigliosa, siete veramente commoventi. Eh? E allora voi ci avete spiegato che in realtà in una società capitalista, cioè ciò che media le relazioni importanti, ovvero sia quelle che devono essere profondamente modificate, è il capitale, il denaro. Cioè relazioni come per esempio le relazioni lavorative. Perciò voi il potere lo volevate, i diritti li volevate, ma li volevate in fabbrica. Cioè, ve ne sbattevate il cazzo ad andare a mettere la croce sul simbolo, ma veramente la crocetta con gli analfabeti, è vero o no? Noi l'abbiamo imparato da voi questa cosa. Ci avete spiegato che le nostre erano riforme sovrastrutturali, cazzo, struttura, sovrastruttura, sono parole vostre, sono parole meravigliose. Ma chi ci sarebbe mai arrivato? Cioè uno di noi, un barone, un conte qualunque. Allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto la scuola pubblica, qualche marciapiede, piste ciclabili, vai, che ne so, tipo, case popolari. È vero, no? Il parco dove portare a giocare il bambino, a pisciare il cane, a pisciare il bambino, a giocare col cane. E voi vi siete arrabbiati, ci avete riso in faccia, ci avete detto che queste erano, capito? Le nostre erano condizioni di paternalismo, di fatto, nei confronti vostri. Che quello che volevate veramente ve lo sareste preso, è vero, no? Perché ci avete spiegato che le relazioni tra le classi sono comunque relazioni conflittuali. Questo conflitto l'avete chiamato lotta di classe. Ma che bello. C'è uno che se lo ricorda, meraviglioso. Lotta di classe, è una parola bellissima, un concetto straordinario. Noi l'abbiamo imparato da voi. Cari compagni, cari compagni, voi eravate i primi della classe. A fronte di questa vostra straordinaria preparazione, oggi io umilmente vengo a chiedervi: ma perché siamo noi al governo e voi non contate un cazzo? Ma veramente? Cioè, è strano. La realtà è che non soltanto voi, figuriamoci, voi siete pedine, ma i vostri cosiddetti rappresentanti. Cioè, non somigliano più neanche da lontano a quelli che vi rappresentavano un tempo. Sono così abituati a vederci governare che pensano che per andare al governo bisogna comportarsi come noi. Ma porca puttana, cioè, le cose che facciamo noi da secoli le sappiamo fare noi. Cioè, quelle cose lì, le banche, i supermercati, dai mercati, no, rionali, quelle cose lì, le assicurazioni, la finanza, l'economia, è roba nostra. Voi sapevate fare altre cose. Voi ci parlavate di dittatura del proletariato, rivoluzione, società senza classi, utopie meravigliose e straordinarie. Ma oggettivamente, dateci ragione per favore, oggettivamente erano tutte contro di noi. Noi avevamo il diritto di difenderci, ma voi avevate il dovere di contrattaccare. Se solamente avessimo immaginato che eravate così debri che vi bastava, capito, dubire una sera così per far venire i coglioni, noi veramente sinceri non avremmo picchiato tanto forte, scusate. Cari compagni, io oggi, sinceramente. Ripetiamo insieme, se oggi uno di voi fosse al governo, ma no, no Gaber, no, non so, dai, veramente, ma Gramsci, Antonio Gramsci, se Antonio Gramsci fosse oggi il presidente del Consiglio, farebbe tutt'altro come la chiamate oggi voi squadra di governo. Gramsci avrebbe, non lo so, un contadino e gli chiederebbe di fare il ministro dell'agricoltura. Un contadino umiliato, uno che quando va dal mediatore a vendere le carote gli dice mi devi dare 7 centesimi perché sennò di meno io ci rimetto, e quello lo umilia e gli dà 3-4 centesimi per rivendersi le medesime carote a 20-30 volte di più al supermercato. Gramsci chiamerebbe quel contadino umiliato, ne farebbe il ministro dell'agricoltura. Gramsci farebbe così. Gramsci, non so, qualcuno forse non lo conosce. Gramsci era di famiglia poverissima, no? Era un sardo che a 2 anni è stato colpito da tubercolosi ossea alla colonna vertebrale, è rimasto alto 1,5 m per tutta la vita. Gramsci, 1,5 m, era un gigante. Gramsci che a 10 anni lavorava 10 ore al giorno per guadagnarsi 1 chilo di pane. Gramsci che era così bravo a scuola che ebbe una borsa di studio per andare a studiare all'Università di Torino durante l'inverno, studiava di notte camminando per non congelarsi i piedi. Gramsci che fondò il grande Partito Comunista Italiano. Gramsci che fece un solo discorso in Parlamento e poi venne messo in galera. Gramsci che in galera, in quei 10 anni di galera, riformò il pensiero socialista. Gramsci che uscì 5 giorni prima di morire, eppure il Gramsci che ricordiamo, famosissima, pure sui cioccolatini, ormai ci sta, questa frase, che al pessimismo della ragione dobbiamo opporre l'ottimismo della volontà. Gramsci. E Gramsci chiamerebbe, non lo so io, per dire, un poeta, ecco, e ne farebbe il ministro della cultura. Gramsci farebbe così, non un barone universitario, un poeta. Gramsci chiamerebbe un lavoratore precario, uno per il quale precarietà non è una parola da pronunciare con la lacrimuccia, bensì una condizione che si vive quotidianamente per la quale non ci sono più lacrime da piangere. Uno che se sentisse in televisione un vecchio anziano padrone borghese dire che il lavoro fisso è monotono, gli direbbe prima cosa, lo sai, hai detto una cazzata. Cioè, mia nonna direbbe lavati la lingua col sapone, è un piccolo gesto, è formale. Seconda cosa, c'hai più di 60 anni, per rispetto a noi, veramente, non alle generazioni passate, ma a noi, vai in pensione, noi non ci andremo mai. Terza cosa, prova tu. Signor ex presidente del Consiglio Mario Monti ad andare in banca a chiedere un mutuo e quando capire il cassiere lì, il bancario, ti dice ma che lavoro fai? Gli rispondi ma un po' qua, un po' là perché se no il lavoro fisso è noioso. Vedrai se te lo danno un mutuo. È vero o no, cari compagni e cari compagni? Gramsci chiamerebbe quel lavoratore precario, ne farebbe il ministro del lavoro. Gramsci farebbe così. Gramsci chiamerebbe, io non so, un pacifista, per esempio, no? Un cardiochirurgo che invece di andare a fare miliardi nelle cliniche svizzere se ne va in Africa a curare i bambini. Un pacifista. Gli chiederebbe di fare il ministro della difesa. Non un generale come quello che ci avete avuto voi fino all'altro ieri. Un generale ministro della difesa. Cioè, è come, che ne so, un piromane capo dei pompieri. Cioè, della difesa, capite? Gramsci chiamerebbe un pacifista, cari compagni e cari compagni. E ne farebbe il ministro della difesa. Gramsci farebbe così. Gramsci chiamerebbe, non lo so, la sorella di Stefano Cucchi, la madre di Federico Aldrovandi, il figlio di Aldo Bianzino, i genitori di Riccardo Rasman, la moglie e la figlia di Michele Ferulli, eccetera, eccetera. Insomma, un parente qualunque di una qualsiasi persona che uscendo di casa dopo aver incontrato una guardia in divisa non è tornata a casa vivo. Gramsci chiamerebbe, per esempio, la signora Patrizia Moretti Aldrovandi ne farebbe il ministro della giustizia, una persona che può parlare di giustizia perché ha conosciuto l'ingiustizia. Cari compagni, cari compagni, Gramsci farebbe così. Gramsci chiamerebbe un immigrato, magari preso a colpi di macete in Ruanda, uno deportato in Congo, uno che si è fatto 2 o 3 anni di galera in Libia, uno che è arrivato in Italia in canotto, è arrivato in Italia e è stato messo in una galera, in un lager chiamato CIE per un anno e mezzo, solo perché non c'aveva i documenti. Gramsci chiederebbe scusa umilmente a quell'immigrato e ne farebbe il ministro degli esteri e lo manderebbe in giro per il mondo a parlare a nome del nostro paese. Gramsci farebbe così. Gramsci chiamerebbe un parente qualunque, una qualsiasi vittima di una qualunque strage di Stato, Ustica, 12 dicembre 69, Banca dell'Agricoltura a Milano, piuttosto che litigi, punto di Ustica, la stazione di Bologna, Piazza Fontana, un parente qualunque. Da una qualsiasi vittima di una qualunque strage di Stato ne farebbe il ministro degli interni, scomparirebbero tutti i segreti di Stato, tutti gli omissis. Io penso che Gramsci farebbe così. Io ritengo, cari compagni e cari compagni, che in questo strano paese, anche se soltanto un bagnino, dico io un bagnino, neanche di Rimini, anche semplicemente di Ostia, diventasse ministro del turismo, già sarebbe un paese migliore. E invece, cari compagni e cari compagni, al governo ci siamo noi, voi non contate un cazzo, e veramente mi dispiace. Cioè, mi piange il cuore, veramente. Ammesso che il cuore possa piangere, insomma, ma veramente anche così, metaforicamente, mi piange il cuore, cari compagni, cari compagni. Cioè, noi, la comunità internazionale, ci chiede di essere molto più stronzi, ma anche un tantino più eleganti dei nostri predecessori, perciò Noi vi governeremo, diciamo, con violenza, insomma, però lo faremo con una certa eleganza perché dovete sapere che il capitalismo è comunque quel grosso ombrello che vi infiliamo nel culo ogni giorno. Ma non dovete pensare che sia un ombrellaccio, quello che vendono i negri al semaforo a 5 euro. Cioè, è un ombrello di lusso, insomma, un ombrello di seta col manico d'avorio e col puntale d'argento. Io lo dico sempre ai miei servi, cioè, per mettervelo, con rispetto parlando, nel culo, cioè, non bisogna essere arroganti. Basta un po' di pazienza e 2 dita di vaselina. E poi lo so, e poi lo so, cari compagni, cari compagni, perché so in quale posto oggi sto facendo, tenendo questo discorso. Io lo so che alcuni di voi mi staranno pensando, ma che cazzo dice questo? Ma questo è un discorso antico, mi sta parlando del marxismo, del capitalismo, questo è un discorso dell'Ottocento, del Novecento. Qualcun altro ancora penserà, ma questo è populismo, no? Qualcuno sicuramente avrà pensato, ma Gramsci non avrebbe fatto così. Ci sta ingannando costui. Questo è un capitalista che sta giocando con Gramsci. Ma ti pare che Gramsci veramente, cioè, prende uno qualunque, lo fa diventare ministro? Ed è vero, è vero, è vero. Anzi, alcuni di voi probabilmente già stanno pensando che il pensiero a cui pensano è un pensiero altro, moderno, altre tecnologie, vero? Altre risorse. L'ideologia 2.0, vero o no? E molti di voi già hanno trovato qualcuno che li rappresenta. E questo è bellissimo. Una bandiera che sventola, un simbolo. Qualcuno che ha preso la vostra indignazione balbettante, la vostra confusa rabbia, ne ha fatto un programma. E voi guardate adesso a quella bandiera sperando che quella bandiera sventoli così forte che faccia a pezzi il sistema. Ma voi sapete cos'è il sistema? Ebbene, sappiate che il sistema è un gruppo di senatori, di deputati, i cui volti, i cui nomi sono noti, presidenti, vicepresidenti, ministri, eccetera, eccetera. Quello è il sistema, certo. Ma quegli uomini e quelle donne non appartengono ai stessi medesimi partiti che governano l'intero territorio nazionale? Fin nei più piccoli microscopici, capito? Municipi, di poche decine, centinaia di persone. E attorno a loro non è pieno di funzionari impiegati che amministrano la stessa medesima macchina, piccoli ingranaggi, certo, ma la stessa medesima macchina, i cui volti e nomi a voi sono ignoti, non perché si nascondano, ma perché a nasconderli è il numero. Questi sono tantissimi, ma sconosciuti. E nei sindacati accade la stessa medesima cosa, per non parlare della religione. Dal più piccolo prete di campagna al più alto prelato. Sì, lo so, qualcuno dirà, ma no, dai, no, i preti, non tutti i preti. Ci stanno i preti di strada, antimafia, combattono insieme a noi, cazzo, è vero, no? Ci stanno, o ci stavano, persino i preti anarchici? Dico, vi invito a ragionare su questo concetto, veramente neanche un OGM, cioè un prete anarchico, che cioè, sia con Dio che contro di lui, capito? E viva Maria e viva l'anarchia, no, ma persone oneste, poco consapevoli, ma oneste, oneste, oneste, oneste. L'onestà non sempre è fatta, anche spesso fatta di dubbi, di contraddizioni, perché no? Ma comunque un uomo che veste un abito sacro sale sopra un altare a parlare a nome di Dio, ma non fa parte dello stesso medesimo sistema che voi tanto odiate. E parliamo per un attimo di economia, e non voglio parlare delle multinazionali delle quali sappiamo tutto, anzi, non sappiamo un cazzo ed è anche peggio. Ti voglio parlare dei bond argentini, e non voglio parlare del Fondo Monetario Internazionale, no. Voglio parlare di vostro padre, che ha messo tutti i suoi risparmi in quelle obbligazioni e ha perso tutti i suoi soldi. È andato forse a Buenos Aires con la borsetta? Come si fa nei film di spie, piena di denaro? No, è andato sotto casa. Un versamento di denaro ecosostenibile, non ha neanche acceso l'automobile, vero no? Dunque la banca sotto casa non fa parte dello stesso medesimo sistema che voi tanto odiate. È l'impiegato di banca che ha convinto vostro padre, magari è il vostro ex compagno di banco, per dire, di scuola, di classe. Uno bravo, uno che dà l'8 per 1000 emergency, no? Che manda l'SMS per il bambino la cui casa è stata distrutta dallo tsunami, è vero o no? Non fa parte anche lui, non amministra anche lui come piccola cellula lo stesso medesimo organismo che voi tanto detestate? È vostro padre, cazzo. Magari è stato un contadino, sapeva che la terra è bassa e si fatica a lavorarla. Come ha potuto pensare che portando i suoi soldi in banca poteva guadagnarne stando tranquillamente seduto in poltrona a guardare la partita? Anche vostro padre fa parte dello stesso medesimo sistema. Anche lui ha sperato di entrare nel piccolo, ridotto numero dei furbi che guadagnano senza fatica. Avete capito cos'è il sistema? Cos'è il potere? Sono i gerarchi, i sovrani, quelli che stanno nei palazzi affrescati, che vanno sulle prime pagine dei giornali, che stanno nel web, ma siete anche voi che amministrate lo stesso medesimo sistema con un potere molto più piccolo, certo, perché molto più piccoli siete voi. Io c'è stato un momento, cari compagni, fatemelo dire, c'è stato un momento nel quale io ho pensato, questi fanno la rivoluzione, ed è stato quando sono arrivati gli immigrati, gli stranieri nel nostro paese. Io mi sono detto, l'abbiamo imparato da loro, cazzo, è vero. Adesso le nostre classi subalterne, i nostri proletari, si alleeranno con i sottoproletari per combattere contro di noi la borghesia. Quale pietoso spettacolo abbiamo assistito? Ad un proletariato ormai borghesizzato a chiedere aiuto alla borghesia di combattere contro il sottoproletariato perché siete stati voi i primi ad andargli a bruciare le case, a bastonarli per strada. Ma che ci andava? Che Ma dai, sull'amministratore delegato della Fiat in giacca e cravatta a bastonarli. Ci andavate voi, anche quelli che non andavano a bastonarli, gioivano, e anche quelli che non gioivano erano comunque contenti di leggi restrittive. Voi, anche quelli che non gioivano di leggi infami che ci avete chiesto voi, porca miseria. Siete stati voi, voi che ristrutturate il vostro piccolo monolocale facendo lavorare in nero un muratore albanese, voi che pagate in nero la donna delle pulizie che pulisce le scale della casa popolare rumena in nero, voi che pagate in nero la vostra badante ucraina, voi che mandate l'SMS al povero bambino la cui casa è stata distrutta dallo tsunami e un attimo dopo andate con vostro figlio che ha la stessa età di quel bambino a comprare un pallone di cuoio o un paio di scarpe da tennis da Decathlon eccetera eccetera, cucite da quello stesso medesimo bambino a cui avete mandato 1 euro. Quel bambino che nel frattempo si è anche venduto un rene per campare la famiglia. E voi lo comprate quel pallone di cuoio. Sapete perché? Perché sapete voi, come sappiamo noi, che un pallone cucito da un operaio assunto a tempo indeterminato rimbalza né più né meno di un pallone cucito da un bambino senza un rene. Voi siete nazisti. Voi siete criminali. Voi siete fascisti in giacca e cravatta, voi siete bastardi, siete delle carogne e lo siete in una maniera meravigliosa. Io quel giorno mi sono detto, noi padroni siamo delle merde, ma loro sono identici a noi, siamo uguali. Perché tanto voi quanto noi sappiamo perfettamente che il pesce grande mangia il pesce piccolo, ma tanti pesci piccoli non mangeranno mai un pesce cane. L'unica possibilità di sopravvivenza per un pesce piccolo è diventare parassita del pesce grande, spidocchiargli le pinne e aspirare ad avere gli avanzi del pranzo e della cena. Lo so, adesso alcuni di voi non saranno contenti di quello che sto dicendo e non saranno neanche d'accordo, io sarò contento. È giusto che non siate d'accordo, indignatevi, arrabbiatevi, urlate, sentite in piazza. Fatelo, lo sapete fare benissimo. Cazzo, siete bravi, ma veramente tanto. Veramente, fatelo, cioè, fa bene proprio per le tossine, fa benissimo. Cioè, noi facciamo Pilates, facciamo la ciclette, facciamo canoa, andiamo in barca a vela, voi non potete, va bene, cioè, ognuno si può permettere quello che può, voi scendete in piazza, urlate tutte quelle cose orrende, schifose, tutte quelle merdate contro di noi scenderemo in piazza con voi, vi bastoneremo, ma sappiate che per ogni bastonata vi siete meritati una carota. È così che andrà avanti, da tanto tempo andrà avanti ancora molto così, perché noi siamo più che uguali, noi a voi, noi siamo, direi, identici. E vi chiedo stasera, e termino questo mio discorso che forse è stato lungo e noioso, cari compagni, cari compagni, stasera tornando a casa, se qualcuno di voi sarà ancora lucido, o al limite anche domani mattina va bene, o anche dopo il caffè a mezzogiorno, non importa, l'importante è che sia un momento nella giornata, se volete, se potete, passate davanti ad uno specchio, guardatesi dentro, e nello specchio vedrete me. Un estratto da Discorsi alla Nazione, studio per uno spettacolo presidenziale di e con Ascanio Celestini. Lo spettacolo Scalpiccii sotto i platani, l'estate del 44 a Sant'Anna di Stazzema, di e con Elisabetta Salvatori, al violino Matteo Ceramelli. Sant'Anna è diversa dagli altri paesi della Versilia. È isolata da tutto. Si trova parecchio in alto, su una collina, più o meno dietro le spalle di Pietrasanta. Non è un luogo di passaggio per raggiungere un'altra località. Ci si va per arrivare lì e basta. La strada per salire su oggi è una di quelle comuni vie di montagna, piene di tornanti, scomoda, ripida, ma percorribile con i mezzi. Un tempo invece la facevano a piedi. Ci volevano più di 3 ore di cammino per arrivare su. Durante l'estate del 44, in tanti si incamminarono verso Sant'Anna di Stazzema, scappati da varie località della Toscana, ma anche da più lontano, coi fagotti recuperati alla meglio. Quella salita così dura era rassicurante. Se arrivare su era tanto difficile, una volta arrivati potevano star tranquilli. Ma non trovarono il solito paesino di montagna, unito, raccolto, perché Sant'Anna è isolato anche nel suo interno, proprio per com'è dislocato il paese. Non ha un centro. Non c'è un posto con la piazza, con le case intorno che si possa definire il centro. La chiesa c'è, da una parte, come una piazzetta di platani davanti, ma è scansata, come di solito sono i cimiteri. Le case uguali, tutte sparpagliate sulla collina, a piccoli gruppi. Ogni gruppo di case ha un nome che la distingue. 3 casette là in cima, sulla vaccareccia. Altre 2 là dietro, sono Sennari. E poi il Moco, Coletti, il Pero. E che unisce tutto c'è il verde, gli alberi, la natura. Il vento, carico di salmastro. Il mare non si vede, ma si sente. E poi basta che scolletti un poggio, ecco che appare. Azzurro, disteso, bellissimo. Oggi a Sant'Anna c'è anche un silenzio innaturale, che un tempo non c'era. Non è quiete. È un silenzio che entra dentro, tocca, strappa. Lo stesso silenzio è nei luoghi sacri, non nei paesi. Comunque la prima cosa che si incontra salendo a Sant'Anna di Stazzema è una piazza grande, adibita a parcheggio, una piazza smisurata a confronto di un paesino tanto minuscolo. È piazza Anna Pardini. Piazza Anna Pardini, e da questo nome, che è il nome di una bimba, comincia il ricordo, comincia il racconto e si comincia a comprendere il significato del silenzio di Sant'Anna di Stazzema. E pensa che quando questa piazza era sempre in prato d'erba, qui era tutto un vocià, ci s'arrunava per ascoltare Aspasio, capitava su una volta ogni tanto. Si vedeva spuntare dall'ultima curva prima della piana, si riconosceva dal fischio. Arrivava su scalzo. Le scarpe le portava legate al collo, una di qui e una di là, legate tra di loro con le stringhe, per un consumarle. I piedi sotto gli erano diventati così duri che ci scricchiava i fiammiferi per accendersi le sigarette. Portava sempre una bestia o due, maialetti, manze, pecore, veniva su per quello, ce le veniva a vendere. Noi eravamo così contenti ad ascoltarlo ragionare. Lui sapeva tutto quel che succedeva in giro e ce lo veniva a dire. Era il nostro bullettino, era la nostra radio, che noi altri qua sulla radio non ci sapeva. E di certe cose che raccontava ci si faceva meraviglia, non ci sembravano vere. Si stava una sera a veglia qui sulla piana, tutta bocca aperta e l'occhio in giro per dare la controllata ai ragazzi più grandicelli. Quelli gli approfittavano del buio, della confusione, per sfranellare. S'era freschino uno scialletto sulle spalle e via. Come ci si stava volentieri. Che serata. Bel mio spazio. Morina, che ti vesti di turchino, nel mezzo al cuore mi c'è acceso un fuoco. E quando vedo te, mio bel visino, di tutto il resto me ne curo poco. Ci si perdeva. Loro ammattivano a sentirlo. Sapeva tante di quelle storie, gli raccontava. C'era una volta un uomo nero, tutto nero, grosso, cattivo e nero. Veniva su per i monti, pigliava bimbi, li metteva in un sacco e li portava via. Era la storia dell'uomo nero. I bimbi avevano paura. Ma volevino restare fino in fondo, si divertivino, come a rimbuffi, con quegli occhi spalancati che non battevi in ciglio, come a rimbelli. E dopo, per ritornare a casa, stavino stretti agguantati alle sottane, da figura al buio. In quei viottoletti basta che il vento muova una frasca, sembra che ci sia qualcuno nascosto. E poi, giorni dopo, in casa, mamma, ma c'è davvero l'uomo nero? Ma può venire davvero l'uomo nero a portarmi via? Ma c'è sì, veri Dio che c'è. Ma te sta bravo, te sta valente. Vedrai che te l'uomo nero ti piglia. Quella volta lì dell'uomo nero, Aspasio, quando andò via, disse che sarebbe ritornato prima della festa di Sant'Anna. La festa di Sant'Anna è alla fine di luglio, il 26. Però nel paese aspettavano sempre la domenica per festeggiare. E siccome quell'anno il 26 cadde di giovedì, aspettarono la domenica dopo. Anna nel Vangelo è la mamma della Madonna. Per questo è la santa che protegge le donne che aspettano un bimbo. Ce n'erano 8 di quelle che si sa, di spose che aspettavano un figlio a Sant'Anna di Stazzema quell'estate. La Irma di Natale, la Ilva, la Irma di Raffaello, la Claudina, la Sabina, la Pasqualina, l'Evelina e la Bruna. L'Evelina era arrivata alla fine del tempo, era questione di poco. 10 giorni avrebbe partorito. La Bruna, invece, dette alla luce una bimba 2 giorni prima della festa. Siccome il parto andò bene, volle chiamare quella bimba Anna, proprio in onore della santa. Le donne tribolavano a portare quel peso su per i viottoli. E poi il lavoro in casa, il caldo, il lavoro nei campi, il nervosismo degli uomini che erano tesi per via della guerra. Era tutto più difficile. Però poi la sera, quando le vedevi sedute su una seggiola, su un muricciolo, a prendere il fresco davanti all'uscio di casa, con la mano sul ventre, con la dolcezza che hanno le madri, gli occhi che guardano lontano, che uno non sa se pensa, se prega, allora ti accorgevi che in quel peso c'era così tanto amore che quella fatica diventava una speranza per tutti. Oh Sant'Anna Benedetta, aiutici te, che queste creature, ma anche il mondo, si faranno nascere. Io nei momenti di bisogno mi sono sempre raccomandata a lei. Mi ci avvezzo la mia povera nonna a pregarla. Mi ricordo che quando ero piccoletta mi faceva paura la statua che è in chiesa. Mi pareva che avesse gli occhi cattivi, che mi guardasse male. E la mia nonna diceva, non è cattiva, è preoccupata, perché pensa a bimbi che devi non nasce. Te fagli le coroncine con fiori, vedrai che lei è contenta e ti ride. E io dai per le piane, a infilzare le margherite. Prima me la facevo per me la coroncina, e mi facevo braccialetti, le collane, ma fiori più belli li scansavo, con quelli ce la preparava a lei. Ma avevo paura a portarla in chiesa. C'era sempre buio in quella chiesetta, c'era buio anche l'estate. Allora aspettavo che la mia nonna finisse di fare le faccende, mi ci faceva accompagnare da lei. Si metteva la coroncina sull'altare, si diceva l'Ave Maria, e poi guardavo, a vedere se si muoveva, se cambiava, a vedere se mi rideva. Oh nonna, ma lo vedete che sta ferma e che non mi ride? Una ve furia, vedrai che col tempo. Aveva ragione lei, con gli anni accresce, non è sembrata più così severa e cattiva. Quella del 44, tra tutte, fu la festa più povera del paese. Il mangiare era poco. Ora andava divisa anche con gli sfollati che erano venuti su a nascondersi. Trovare pane per tutti e tirare avanti era dura sul serio. E poi quell'anno, come se non bastasse, era accaduto di tutto. I vermi avevano riempito i cassoni della farina e tanta non si poteva usare, si era proprio sciupata. La guerra aveva portato il prezzo del grano alle stelle. Il regime aveva requisito il bestiame, scarseggiava anche il latte per i bimbi. Eppure, nonostante quella situazione di necessità, di bisogno, quella del 44 tra tutte fu anche la festa più sentita, più partecipata. Tutta quella gente che unita insieme ora si raccomandava a Sant'Anna, quelle mamme. Quassù non si era mai vista una cosa così. Qui in chiesa non ci si stava da tanti che sera, ma anche la piazzetta lì davanti, piena, gremita, un fottio di gente. Per la prima volta quella domenica si sentì suonare l'organo. Che emozione! Per il Dio che si prega meglio con certa musica, perché certa musica fa più delle parole, certa musica ti entra proprio dentro, ti piglia qui, ti fa piegare i ginocchi, fa piangere certa musica. E sapeva tante la pezzola a mano davanti all'altare. Pensa che lui l'organo ci sapeva da tanto tempo. Non si era mai sentito suonare. C'era nessuno dei Sant'Annini che conoscesse la musica. Però tra gli sfollati venne su un signore di Pietrasanta, un bell'uomo distinto, musicista. Quella mattina si mise all'organo e ci fece sentire proprio l'inno a Sant'Anna. Poi a mezzogiorno il prete ci dette la benedizione. Sortì fuori, sul piazzale, tutti inginocchiati, uno accostato a quell'altro, e lui nel mezzo, a voce alta, a guardare il cielo proprio come se volesse parlare col Padre Eterno, e chiese la benedizione di Sant'Anna per noi altri e per tutti i cristiani. Poi tocco andò a casa, si desinò, ci si spicciò e subito a preparare per la processione della sera. Era tradizione costruire dei grandi archi con le frasche, ricoprirli di fiori e fissarli da una parte all'altra nelle viette del paese. Sotto ci passava la processione. Davanti c'era la statua di Sant'Anna e poi c'erano i bimbi piccoli vestiti a chierichetto. e a seguire tutto il resto del paese. Era una scia luminosa che l'attraversava il paese, con i passi lenti, quei canti strascicati, il profumo di incenso, di cera. O Madre Santa, che stringi sul seno quella creatura che è Madre di Dio. A tagliare i rami, unire le frasche, cominciavano i giorni prima perché ci voleva un po' di lavoro, ma la domenica erano pronti, bastava ricoprirli con i fiori. Questi li raccoglievano i ragazzi la mattina presto, dentro i sacchi. E poi il pomeriggio le donne, sedute in coppia sulle sedie, una davanti all'altra, e la frasca da infiorare nel mezzo, ci stavano chine tutto il pomeriggio, come fossero a cucire, a tessere. Cade l'uliva e non cade la foglia, le tue bellezze non cadono mai. Sei come il vento che cresce per onde, cresce per acqua e per terra mai. E tu sei come l'erbo tenerello. Quando li sollevavano finiti, erano uno spettacolo. Se avanzavano dei fiori, prendevano i petali e li buttavano per terra. E se avevano tempo, dividevano i petali per colore e componevano proprio dei disegni, dei tappeti sui quali passava la processione, con quei passi lenti, con i canti, col profumo di incenso e di cera. Li mettevano lungo tutto il percorso, usavano i gusci delle lumache, quelli grossi, li mettevano via durante tutto l'anno pensando alla luminara di Sant'Anna. E poi si impastava un po' di calce e venivano fissati alle pareti esterne delle case oppure appoggiati sui muriccioli, in una fessura tra un sasso e l'altro, in un buchetto. Era un lavoro che facevano gli uomini, ma anche i bimbi si divertivano, volevano mettere quelli in basso dove ci arrivavano bene. E poi i gusci delle lumache venivano riempiti con l'olio, ci mettevano uno stoppino e erano pronti, bastava accenderli. Era tutta una scia luminosa che attraversava il paese, con quei canti, quel profumo di incenso, di cera. Di Sant'Anna rinsaldò la fede, allontanò un po' anche la paura della guerra. Comunque la guerra a Sant'Anna si percepiva soltanto. Le notizie arrivavano su annacquate, sbiadite. Si sapeva che giù alla piana la guerra faceva dei morti, ma sembrava così lontano lì. Sant'Anna si sentivano le ristrettezze, i disagi, la fame, ma la guerra vera, gli orrori, i sant'annini non se la immaginavano neanche. Fu Aspasio, il bollettino della gente di Sant'Anna, che quando tornò su dette un'idea di quel che succedeva in giro. Lo videro spuntare come sempre dall'ultima curva prima della piana. Ma non sembrava lui, sembrava stanco, affaticato. Bestione, purtroppo, non si poteva più né comprare né vendere, ma ma s'aveva una vacca che tribolava per via della mastite. Prima di tutto andò nella stalla a dargli un'occhiata e poi venne qui sulla piana e bimbetti subito gli andarono intorno. Però lui era come se non avesse voglia. Qualcuno dei bimbi gli andò proprio un collo, lo incitava. Lui cominciò a cantare uno stornello e smise, come se si vergognasse. E noi altre, Aspasio, ma che avete, ma che vi è successo? E che a camminare per i monti n'aveva viste di cotte e di crude. Altro che la storia dell'uomo nero, quello che succedeva in giro era peggio di quel che succede nelle folle dei bimbi. Quando Bibi si furono scansati, ci raccontò che poco tempo prima, in un paesetto vicino, si chiama Rio Magno, dei tedeschi aveva impreso un ragazzo sulla seggiolina a rotelle, un poliomelitico, un partigiano, un certo Amos. Amos lo conoscevano tutti nel paese, perché il suo abbo e la sua mamma già avevano una sala da ballo, lui era cresciuto lì dentro. Sapeva suonare la chitarra, il violino, cantava. Era un ragazzo pieno di vita nonostante la sua disgrazia. Noi a sentire quei discorsi ci si sentì stringere il cuore. Eravamo tutte mamme. Di tanti dei nostri ragazzi più grandi non si sapeva che fine avessero fatto. In conclusione, questo Amos fu torturato per 2 giorni per farlo parlare. E lui su quella seggiolina a rotelle li guardava quei tedeschi e gli diceva: è vero, son partigiano. Ma altre cose ne tirava fuori, stava zitto. Allora, visto che non ce la facevano a farlo parlare, lo vollero offendere dove era più delicato. Nelle sue gambe malate. Lo portarono fuori in una piazzetta, lo legarono per le gambe alla coda d'un cavallo e poi cominciarono a frustare quella bestia. E lui girava, girava, strascicava, ma zitto, senza tirar fuori una parola e senza lamentarsi. Allora, visto che non ce la facevano a farlo parlare e che tanto morto da solo non sarebbe morto, lo finirono loro con una mitragliata. Aspasio raccontava con gli occhi bassi, per pudore. Queste non erano favole, questa era la guerra. Quella sera furono le madri che tornarono a casa con la paura, con l'indignazione. Aspasio si trattenne con un gruppetto di uomini sulla piana. Parlavano a voce bassa, gesticolavano. Disse che sarebbe ritornato su presto, 1 o 2 giorni al massimo, per controllare la bestia. Riprese la via per scendere, che ormai era quasi l'alba. Si rimise il cappello. Aspasio aveva l'abitudine di appoggiare il cappello a un rovo di more, come se fosse l'attaccapanni del paese. Chi lo vide per la prima volta, perché tanti, essendo sfollati e su da poco, non lo conoscevano, rimase colpito da quell'uomo. Aspasio era un gigante, un omone, grandi le mani, grandi le spalle, gli occhi invece erano fessure, e dietro quelle fessure ci vedevi l'azzurro del cielo, del mare, di qualcosa di bello. E poi il modo di parlare, vedevi le cose che diceva, il modo di raccontare ai bimbi, di cantare gli stornelli. A Aspasio gli si voleva subito bene. Sfollati e Sant'Annini condivisero subito tutto, dal poco pane alla compagnia di Aspasio, come se tutto il paese fosse un'unica grande famiglia. Non erano abituati a così tanta gente, non erano proprio pronti. Ma si adeguarono, si strinsero dove c'era bisogno, intorno a tavolo, in una cucina, in un fondo, dove prima ci stavano 10 persone, ora ce ne stava 15, 20. E poi si sa, in certi momenti è così importante farsi compagnia, in certi momenti serve tutto. Serve perfino sentire un bimbetto che dice uno scerpellone, perché ti fa pensare un'altra cosa. Serve vedere due mamme che preparino la cena con poco, con nulla, ma senza musi lunghi, che una mamma triste non si può vedere. Serve perfino sentir cantare uno stornello, una serenata, quando ne voglia, quando non ti sembrerebbe davvero il momento. Perché è allora che c'è più bisogno? Noi tutte si voleva continuare andavanti, continuare a sperare. Per questo che ci si agguantava a qualunque cosa per andavanti. E per questo era importante farsi compagnia. Perché dove c'è la paura, dove c'è la guerra, almeno di un po' di compagnia da un essere soli, ci vuole. E quelli che più di tutti si facevano compagnia erano i bimbi. Erano tantissimi. Qualcuno è venuto su da poco e appena conosciuto. In quell'estate bellissima, come tutte le estati, poi qui non c'erano pericoli, sempre a giocare per le piane. I maschi si rincorrevano, si nascondevano. E poi il gioco più bello era quello di costruire le fionde, gli strombolini con i rami di nocciolo. Le bimbe invece si incontravano qui nella piazzetta davanti alla chiesa, sotto i platani. E lì con i sassi segnavano per terra i segni per fare la campana. E poi canzoncine, salterelli, girotondi, quelle vocette, quei piedini, quegli scalpicci sotto i platani. Erano una speranza per tutti. La fiducia che almeno in loro la guerra non aveva ancora portato via andava difesa. Ma era così difficile avere ancora un po' di speranza e di fiducia. Aspasio, che ritornò su 2 giorni dopo, come aveva detto, per controllare la bestia, raccontò un altro fatto raccapricciante. Pare che proprio 2 giorni prima, a Pietrasanta, un fascistone della zona, una testa calda, uno cattivo sul serio, dopo aver ucciso un partigiano, l'aveva mutilato tagliandogli un orecchio. E portava l'orecchio attaccata al collo della camicia, come se fosse un trofeo. Lo mostrava. S'avvicinava alle persone per farglielo vedere bene, alle donne soprattutto. Le voleva spaventare. Diceva che ci voleva nulla a uccidere altri uomini, a tagliare altri orecchi o a dar fuoco a tutto. E poi i fascisti erano alleati coi tedeschi. Se fossero arrivati su quelli, come sarebbe a dire? Che ci venivano a fare qua su tedeschi? Non c'era mia da combattere qui, Partigiani non ce n'era. Ne capitava uno su una volta al mille a chiedici un truciolo di polenta e di quel goccio di vino. Che poi non altro che il truciolo di polenta e quel goccio di vino si dava a tutti pur di star pace. Bianchi, rossi, neri. Armi, per l'amor del cielo, forconi da campo per lavorare, per noi e per tutti quelli come noi che avevi fame, avevi bisogno di mangiare. Uomini, quelli buoni per il soldato erano andati via tutti. È vero, era resto su qualche padre di famiglia, ma pochi, si erano nascosti quelli. Non ne poteva succedere di cose brutte a Sant'Anna, non si era mai dato noia a nessuno. E poi, ma che ci venivano a fare qua su tedeschi? Eravamo solo donne, vecchie e bimbetti. E invece nella prima settimana d'agosto cominciarono a girare delle voci. Si diceva che forse i tedeschi potevano salire a Sant'Anna e punire quei sant'annini che non avevano obbedito a un presunto ordine di sfollamento. Qualcuno diceva che bisognava lasciare il paese, ma i più erano sicuri che il posto era il posto migliore per restare. Che non bisognava lasciare le abitazioni. Si parlava anche a mezza voce di un volantino, appeso proprio qui alla porta della chiesa. Era stato tolto subito, l'avevano letto in pochi. Pare che fosse un invito a non lasciare le abitazioni e a contare sulla difesa dei partigiani. Però era un foglio che non aveva né timbro né firma. Poteva anche essere una provocazione. Bisognava farsi coraggio, bisognava tenere duro, era questione di poco. 1 mese, 2, ma nemmeno. I tedeschi se ne sarebbero andati via. Finalmente si sarebbe ricominciato a vivere. Il venerdì sera, Qui, davanti alla piazzetta della chiesa, gli uomini stavano seduti sul muricciolo. Parlavano di Aspasio, di guerra, di politica. Il Pieri stava in disparte, aveva macellato la bestia, non si poteva fare, però l'aveva fatto coperto da tutti. Le donne si erano portate dietro il fagotto con rammendi, cucivano. Le ragazze più giovani preparavano il corredo. Qualcuno aveva il rosario in mano, alzava le sue preghiere alla Vergine, a Sant'Anna Benedetta. Dalla spianata sopra i lavatoi arrivava una musica dolce, era un grammofono a molla e unita a questo le voci delle ragazze. Cantavano canzoni d'amore sotto le stelle. Le stelle erano cadute proprio la sera prima, era stata la notte di San Lorenzo. Mentre nella piazzetta della chiesa sotto i platani i bimbi continuavano a fare il giro tondo. Quella notte, per l'ultima volta, il paese di Sant'Anna ebbe le sue voci. E poi la notte stellata d'agosto si addormentò su tutto. Si svegliarono presto la mattina dopo, era sabato. C'era un'aria tesa, nervosa. Il ghe delle cicale levava di sentimento. Gli uomini vennero avvisati che un gruppo di tedeschi saliva su e scapparono a nascondersi come gatti nelle sedie. Le donne, coi bimbi, coi vecchi, col prete, restarono su, col cuore in gola, col rosario nella tasca del grembiule. Loro non rischiavano, ma alle loro case, a quelle gli poteva andar fuoco come se fossero fascine. Qualcuno aveva già acceso il forno per cuocere il pane, lo cuocevano il sabato mattina, presto, di modo che il profumo si spargesse nell'aria e non si sentisse in giro. Restò su anche il Pieri, per via della bestia, perché avessero avuto a ridire, voleva esserci lui a risponderle. Povero uomo, non ci aveva dormito tutta la notte. Svegliarono i bimbi e cominciarono a gettare tutto fuori dalle finestre: lenzuola, coperte, vettovaglie. La preoccupazione più grande era che bruciassero il paese, come era successo 4 giorni prima al paese lì davanti, al paese di Farnocchia. Per questo buttavano tutto fuori dalle finestre, per riorganizzarsi subito, alla meglio, nell'ipotesi che anche Sant'Anna avesse dovuto subire il fuoco. Prima delle 8 quando arrivarono. 4 compagnie del 2° battaglione della 16ª divisione SS Reichsführer e un numero imprecisato di fascisti versiliesi a fargli strada. Qualcuna li vide dai campi. Era una fila lunga, lunga, lunga, lunga, lunga di soldati. Sembrava che nonostante la salita non la sentissero la stanchezza. Cantavano. Avevano perfino un organetto. Irruppero nelle case come vandali. Spalancarono le porte col calcio del fucile, con gli stivali. Gridavano, minacciavano, puzzavano. Raggrupparono le persone. Nei fondi, nelle stanze, stretti, costipati, finché ci stavano a forza. Le donne in stato interessante respiravano male, ma non si lamentavano. Ai bimbi più grandicelli non gli riusciva a piangere, non gli scappava più la pipì. Erano come intontiti. Qualcuno fu raggruppato davanti all'uscio di casa ad assistere in silenzio mentre montavano il cavalletto per la mitragliatrice. Spintellonarono fuori di casa una vecchia che camminava male e la povera donna si disperava, piangeva Il suo nipote, un ragazzetto che avrà avuto 13 anni, gli diceva: "Oh nonna, via, non vi preoccupate, state tranquilla, non è nulla, non ci fanno nulla, ci fanno una fotografia." E l'abbracciava, ma lei seguitava a piangere. Quando ci se ne rese conto che ci voleva in ammazza a tutti, perché si stentava a crederlo, Ancosarino lì davanti ai nostri occhi, armati fino a denti. Allora si pensò almeno a salvabimbi. L'Ofelia già aveva la sua creatura in braccio di 9 mesi e gli andava davanti a quei tedeschi e gli diceva: "Ma questa bimbina che colpa c'ha? Ma lei che va fatto? Non me la toccate, lei è piccola. Pigliatela voi altri, non importa se non la vedo più. Ma lei ogni fate del male. E mi pa, ma lo vedete che è vecchio? Lasciateci stare per l'amor del cielo." E poi una mitragliata coprì tutte le voci. Caddero insieme uno dopo l'altro, cadde la mamma, cadde la bimba di 9 mesi, la nonna, il ragazzo di 13 anni, il vecchio. E quel sole bellissimo d'agosto continuava a risplendere come se non si accorgesse di nulla. Arrivarono a un gruppo di case che lo chiamino la Vaccareccia. Lì c'erano le stalle. Fecero sortire le pecore, ci infilarono la gente, stretta, costipata, finché ci stava. Chi piangeva, chi urlava, chi pregava, chi si raccomandava. C'erano anche dei bimbi. C'era Marietto, il bimbino della Genì. 2 giorni dopo sarebbe stato il suo compleanno. Quando la Genì si rese conto di come sarebbero andate a finire le cose, per nasconde il bimbo, lo le mette dietro la porta della stalla. Dal muro sortiva in fuori dei sassi e lei ce lo mise a cavaccione a quei sassi e poi la richiuse la porta e si raccomandò col bimbo di sta fermo, di sta zitto, qualunque cosa fosse successa. Cominciarono a sparare e colpi e via e dai, di fuori bruciavano addirittura con lanciafiamme. Chi cascava per le pallottole, chi cascava per il fumo. La Genì era tutta ferita, sanguinava. Il Marietto la guardava, la sua mamma Dana Senice della porta. Ma quando lei si accorse che Entresco si avvicinava alla porta, per paura che vedessero il bimbo, con l'ultima forza che gli era restata, si levò uno zoccolo e glielo sbatté nella testa a quel dannato. Subito dopo ci fu una mitragliata sotto per lei, sotto gli occhi di Marietto, che 2 giorni dopo sarebbe stato il suo compleanno. Ma Marietto sopravvisse. Ferito così gravemente e ustionato alle spalline che si vedevano i polmoni, ma vivo. Ebbe ustioni gravi anche Ennio, 13 anni. La fortuna di Ennio è che in casa lo ubriacarono, gli fecero bere del cognac per stordirlo, per renderlo meno consapevole di quell'incubo. E lui perse la paura, uscì di casa e andò a nascondersi in un forno. Lo videro, andarono al forno, accesero le fascine e chiusero l'imboccatura. S'accanirono contro un ragazzino di 13 anni. Per fortuna era esile, era magro. Riuscì a nascondersi nell'intercapedine. Rimase soffocato, mezzo ustionato, ma sopravvisse. Quando arrivarono a Coletti, la Bruna era in casa, con le sue 4 figliole grandi vicine e la più piccinina in collo, la Anna, l'ultima nata nel paese. E poi c'era altra gente, erano 28 tutti, vicini di casa, parenti. Cominciarono a bruciare e quel che un bruciava lo spaccavano. Uno dette un pugno alla Cesira, la figliola più grande della Bruna, che aveva 18 anni, la fece cascantera. Era italiano quello, lei lo riconobbe dalla parlata. La Cesira voleva pigliare la sua sorellina, portarla via, vedere se ce la faceva a salvarla. Ma la Bruna disse che andasse lei via, che era giovane, era svelta, forse ce l'avrebbe fatta. E che se era destino che dovevino morire, lei e la bimbina sarebbero morte insieme. Cominciarono a sparare su tutti, donne, bimbetti, colpi, dai, dai, dai. Non la smettevi più. Quando smisero per terra era tutto un lago di sangue. La bruna a cascà aveva coperto la Cesira, l'aveva salvata. E la Cesira da lì sotto sentì un lamento. Era la sua sorellina piccola. Allora si fece coraggio, aprì le braccia della sua mamma, prese la bambina e scappò. La bimba aveva 20 giorni, era gravemente ferita. Morì il 4 settembre, fu la più piccola tra le vittime di Sant'Anna e direi oggi rimane il nome come memoria a una piazza che è la prima cosa che si incontra salendo a Sant'Anna, piazza Anna Pardini. Ma non si fermarono qui. Non si fermarono di fronte a nulla. Fecero partorire l'Evelina, che quella mattina aveva le doglie. Le aprirono il ventre con una baionetta. Presero la creatura, un maschietto vivo. Gli spararono alla testa e lo vollero ricomporre tra le braccia dell'Evelina morta, ancora uniti dal cordone ombelicale. Uccisero 560 persone in 3 ore. Tutti. Tutti, famiglie intere. Spararono addirittura alle bestie, alle galline e ai conigli. Crivellarono l'organo della chiesa. Con i bimbi piccoli ebbero modalità che non si possono raccontare. E poi bruciarono tutto. Per far fuoco nella piazzetta della chiesa sotto i platani, usarono le panche della chiesa. Lì furono uccise 132 persone. E 32 erano bimbi sotto i 10 anni. Erano gli stessi bimbi che 2 sere prima in quella piazzetta ci facevano il giro tondo. Sant'Anna era un rogo, era colonne nere di fumo che si vedevano da tutta la Versilia, era puzza insopportabile, nauseante di carne bruciata. E dopo poche ore, le grida degli uomini, disperati, quelli che erano andati a nascondersi e che ora tornavano e chiamavano le mogli, le madri, i figli, e non c'era più nessuno a rispondere. Silenzio, solo silenzio. Da allora, su Sant'Anna quel silenzio c'è restato. Di quel girotondo di bimbi se ne salvò una sola. Era figlia unica, i genitori l'avevano avuta su con gli anni. E la sera prima la mamma l'aveva portata a Pietrasanta. Il babbo con loro non c'era andato perché era offesa una gamba, camminava male. Quando tornarono su, pochi giorni dopo la strage, del babbo era restata una scarpa ortopedica e il cappello sfondato da una mitragliata. Ma quello che spaventò più di tutto la bimba fu proprio quel silenzio. Non c'erano più voci, non c'era neanche il ghe delle cicale. E poi questi uomini, questi vedovi fuori di testa dal dolore, a vedere una bimba senza un graffio, senza un livido, l'abbracciavano, piangevano su di lei e la chiamavano col nome dei loro bimbi morti. Lei, poverina, si spaventava sempre di più. Ennio, invece, 7 anni, vivo per miracolo, vivo per la pietà di un tedesco, per un ragazzo giovane, fece scappare lui e la sua famiglia nelle selve, sparò in aria. A spaventare Ennio fu un episodio che accadde una 20ina di giorni dopo la strage. Arrivò su un gruppo di soldati americani e Ennio per la prima volta in vita sua vide un uomo di colore, un uomo nero, tutto nero, e immaginò che fosse quello che raccontava Aspasio nelle sue storie venuto a prendere lui, era uno dei pochi bimbi rimasti. Questo ragazzone americano prese il bimbo in braccio, Ennio urlava, si rivincolava come un ossesso. Il ragazzo gli parlava con garbo, però gli parlava in inglese, lui non capiva nulla. Però a un certo punto questo ragazzo tirò fuori un pezzo di cioccolata e di fronte a quel ben di Dio Ennio piano piano cominciò a calmarsi, forse anche a sorridere. Di Aspasio non si seppe più nulla, ma nella memoria dei tempi belli della gente di Sant'Anna qualcuno si ricorda ancora quel fischio. Quel fischio che si sentiva salire dall'ultima curva prima della piana. Lo spettacolo Scalpiccii sotto i platani, l'estate del 44 a Sant'Anna di Stazzema, di e con Elisabetta Salvatori, al violino Matteo Ceramelli. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Maurizio Argan, co-direttore artistico della 22esima edizione del Festival Voci dell'Anima, dal titolo Gli Altri, al Teatro degli Atti a Rimini dal 24 al 30 settembre 2024, ben trovato. Buonasera a voi. Spieghiamo cos'è questo festival. Innanzitutto un festival indipendente, cerchiamo di portare le voci di chi non riesce a farsi sentire o non possono o non hanno uno spazio per poterlo fare. Ogni anno cerchiamo di aumentare la qualità dei lavori scelti nel limite delle nostre possibilità e in base alla poetica che noi pensiamo ci debba avere in scena, insomma. Come si caratterizza questa edizione? Innanzitutto è divisa tra la parte laboratoriale, che è molto ricca, oltretutto apriamo un'offerta al pubblico per un avvicinamento anche al teatro di laboratori completamente gratuiti. È un investimento che Voce dell'Anima fa da un paio d'anni e ha anche un riscontro sia di pubblico, di partecipanti, che poi diventa pubblico di spettacoli del teatro. Quest'anno abbiamo la Danza Butto, abbiamo un laboratorio di critica teatrale, di teatro classico, di scrittura drammaturgica e anche di musica per il teatro. Un grande ospite d'onore che quest'anno è Marco Bagliani con Colas. E poi se abbiamo dei lavori che abbiano per noi una necessità di essere rappresentati con tematiche abbastanza vicine a tutti noi, sociali, che parlano di donne, di famiglia, di amicizia. E abbiamo sempre una giornata particolare dedicata al teatro civile e sociale. E quest'anno avremo ospite Fiammetta Borsellino con uno spettacolo che si chiama La Stanza d'Agnese, che parla appunto della storia della moglie di Borsellino nei giorni della morte del giudice. Poi abbiamo sempre delle serate dedicate alla danza, con due serate quest'anno anche dalle danzatrici che arrivano dalla Germania, e quindi siamo molto contenti. Un festival molto indipendente da tutto, non soggetto alla moda degli scambi, delle conoscenze. Prendiamo quello che riteniamo giusto possa essere una gran voce. Oltretutto facciamo anche la gran fatica, perché anche quest'anno sono arrivate 80 proposte e alla fine ci riduciamo a sceglierne 7-8, e quindi è difficile anche per noi, però siamo contenti, insomma. Ecco, com'è la scelta artistica? Innanzitutto che non siano copie di spettacoli già di successo, perché poi anche molte proposte che non hanno, secondo me, una costruzione dell'artista, una ricerca dell'artista, sono copie. Per esempio c'è l'anno che va di moda la maschera, arrivano un numero di spettacoli con le maschere, c'è l'anno del video, così. E allora cerchiamo anche una proposta che secondo noi vuole lanciare un messaggio di necessità, prima per l'artista e poi per te pubblico, che poi lo vai a vedere, insomma. Come sarà strutturato rispetto agli spazi e ai tempi? Il festival dura una settimana, finisce lunedì, c'è una serata dedicata alla danza e alla premiazione. Abbiamo 4 giornate dedicate agli spettacoli in concorso e 3 serate dedicate agli spettacoli ospiti. In più i laboratori si svolgeranno invece nella sala del balletto del Teatro Galli, che è il Teatro Grande di Rimini, dove abbiamo un notevole numero di iscritti che aumenta di anno in anno. Questa è un po' la struttura base. 2 spettacoli a sera, una giuria del pubblico e la giuria della critica. Insieme decreteranno la voce dell'anima, insomma, con molta libertà. Gente preparata, anche il pubblico è abbastanza preparato a seguirci e quindi siamo contenti, insomma. Quest'anno abbiamo aperto le scuole, facciamo il mattinetto per la scuola, specie per il lavoro su Borsellino, e abbiamo avuto una bella risposta, siamo molto felici. Ci dai tutti i riferimenti web per il programma? Lo potete seguire sulla pagina di Facebook Voce dell'Anima 24 e Teatro della Centena. Informazioni, prenotazioni a Teatro della Centena @pianoterra.org. Prima degli spettacoli ogni anno abbiamo una mezz'oretta di 3 serate, chiamiamola così, che si chiama Animali da Palco, dove vengono presentate poesie, testi di nuovi autori, di poesia, di musica, che anche questo sta prendendo una forma più concreta e più strutturata di come era strutturato all'inizio. Abbiamo collaboratori, uno staff tecnico di alto livello, Franz Catacchio, che ha curato anche le Olimpiadi di Parigi, per dire, Loredana Scanna come responsabile dei laboratori, io e Alessandro Carri come direzione artistica. 22esima edizione del Festival Voci dell'Anima, dal titolo Gli Altri, a Rimini al Teatro degli Atti dal 24 al 30 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Maurizio Argan. A presto! Grazie a voi! Con Mariangela Gelati, co-direttrice artistica della 18esima edizione del festival Il Rumore del Lutto, dal titolo Respira, a Parma e altre città dal 28 settembre al 17 novembre 2024. Ben trovata. Grazie e un saluto a tutti i radioascoltatori. Spieghiamo cos'è questo festival. È un progetto che riguarda la vita tutta, quindi la vita in tutte le sue sfaccettature, e quest'anno in particolare con questi 18 anni vogliamo, insomma, rappresentare non solo la maturità del progetto ma anche l'impegno collettivo di tutte le realtà, di tutte le persone che hanno creduto, che continuano a credere alla sua forza trasformativa, perché il tema Respira, che abbiamo dato come claim quest'anno, è proprio un invito a esplorare il nostro rapporto con la vita, la finitudine, le trasformazioni, e a riconoscere che la vita e la morte sono indissolubilmente legate, proprio come l'inspirazione e l'espirazione. E quindi, insomma, è un invito che ci prendiamo per fermarci su temi universali importantissimi, per attraversare anche quei confini invisibili che di norma accantoniamo, ecco, li lasciamo un po' in tappeto. E quindi, ecco, questo festival è un festival di death education, quindi si rivolge ad una nuova cultura della vita che ha in sé anche queste trasformazioni. Come si caratterizza questa edizione? Proprio perché sono 18 anni e quindi per noi, insomma, è importante aver aperto un dialogo profondo pubblico su questi temi, considerando che poi quest'anno per la prima volta negli Stati Uniti c'è un festival simile appena partito, che si chiama Memento Mori, a settembre a Los Angeles. Si caratterizza con 60 eventi, quindi, insomma, è un numero importante, anche se poi abbiamo fatto delle edizioni con ancora più eventi, però quello che sta crescendo sono intanto le città, perché facciamo delle experience in altre città, per esempio quest'anno oltre a Reggio Emilia, a Bologna abbiamo anche Genova per la prima volta, poi abbiamo ancora Firenze, Prato, e anche poi degli eventi online che coinvolgono altre città o territori particolari, ma le collaborazioni sono tantissime, sono 126 e sono aumentate anche le partnership e anche i laboratori per i giovanissimi nelle scuole. E poi ci sono ovviamente i concerti, perché il Rumore del Lutto ha sempre cercato di creare attraverso la musica un ponte, perché la musica è un veicolo di emozioni importanti e non può non esserci, ecco. Com'è stata la scelta artistica? Riguardo tendenzialmente i concerti, anche se poi nella scelta artistica c'è anche la parte teatrale, i relatori, eccetera, apriamo con il Galà in Nero, che è un'apertura iconica per noi, con Stuporosa, che è un progetto, una performance meravigliosa, pluripremiata di Francesco Marilungo. Poi avremo l'artista Mary Lattimore domenica 29 settembre. E soprattutto noi come scelta artistica scegliamo anche delle location, delle venue particolari, ecco, quindi per esempio il concerto di Mary Lattimore non sarà in un teatro, ma sarà in una galleria di un cimitero monumentale, ecco, come ad esempio anche la camminata artistica che faremo a Bologna il 18 ottobre, ecco, fino all'ultimo respiro proprio alla Certosa di Bologna. Poi abbiamo scelto di intervistare Gianni Maroccolo a Firenze, alla Biblioteca delle Oblate, perché ci sembra proprio una partecipazione veramente importante per quello che ha fatto, non solo con i primi di FIBA, ma anche con i CFI e tutto il lavoro che porta avanti tuttora. Poi abbiamo scelto di invitare Alessandro Giammei e Chiara Tagliaferri, che faranno a Parma domenica 13 ottobre, per ricordare Michela Murgia. Ci saranno anche le Book of Madness con il loro podcast di True Crime il 12 ottobre. E poi altre scelte artistiche importanti riguardano concerti come quello dei Tindersticks, la nota band di Nottingham, che tanto ha influito su alcuni artisti, come anche Nick Cave per intenderci, che sarà l'unica data italiana nel nostro festival il 31 ottobre. Questa è una data già sold out, mentre c'è chi si vorrà fermare poi a Parma per questo concerto. Il giorno dopo ci sarà il concerto invece di Hacke de Picciotto. Alexander Hacke è uno dei membri degli Einsturzende Neubauten, che insieme a De Picciotto farà questo concerto di musica sperimentale. Ma abbiamo anche il figlio di Ennio Morricone, Andrea, il 12 novembre al Teatro Regio di Parma, che con il maestro Cecilia Grillo e Alessio Quaresima Escobar, che è un marito, insieme a queste immagini dei film di Morricone, queste musiche sia di Andrea che di Ennio, perché sempre collaborato col padre, ci sarà un po' questo omaggio celebrativo insieme a degli aneddoti, a uno storytelling, quindi insomma immagini, musica, parole, per poi concludere con Motta il 17 novembre al Teatro Ariosto di Reggio Emilia con questo inizio del suo nuovo tour. Però abbiamo anche dei relatori importanti, partendo appunto dalla storica dell'arte Gloria Bianchino, alla pianista di fama mondiale Umberto Pedizzari, poi il botanico Stefano Mancuso, che il 10 novembre, insieme nella stessa giornata, non proprio insieme, mattina con Daniel Lumera, il biologo naturalista specializzato in scienze del benessere, specializzato nel respiro, e Stefano Mancuso, insieme all'Ordine degli Architetti di Parma, che è uno dei nostri partner, farà questa lezione magistrale su un dialogo possibile tra respiro e architettura, perché comunque anche le architetture subiscono delle trasformazioni, anche se vorremmo sempre che fossero eterne. Quindi ecco, ci sono 60 eventi, sono tanti, e spero insomma che possa essere un evento veramente di riflessione, ma anche di vita vera, perché poi è un festival questo particolarmente vitale, ecco, perché ricordiamoci che non dobbiamo pensare che parlare di certe tematiche ci possa rendere tristi. In realtà parlare di qualcosa di cui non si parla mai e affrontarlo da così tanti punti di vista in realtà è una ricchezza incredibile. E quindi ecco, c'è tutta una dimensione anche spirituale per affrontarla, e noi abbiamo proprio coinvolto artisti, studiosi e soprattutto il nostro pubblico, che ha sempre risposto con curiosità e partecipazione. Ecco. Tutti i riferimenti web per il programma? www.ilrumoredellutto.com, e poi ovviamente abbiamo le pagine Instagram e Facebook, che sono molto seguite, dove trovate delle stories, dove trovate anche delle mini interviste, lì trovate proprio tutto, soprattutto per le iscrizioni, perché alcuni eventi hanno un biglietto d'ingresso, altri eventi hanno la semplice iscrizione via mail e altri ancora invece è il primo che arriva meglio alloggia, tra virgolette, ecco. 18ª edizione del festival Il Rumore del Lutto, dal titolo Respira, a Parma e in altre città dal 28 settembre al 17 novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla codirettrice artistica Mariangela Gelati. A presto! Grazie, grazie, a presto! Con Tiziana Lucattini, direttrice artistica della rassegna You, The Young City, I Grandi Racconti, a Roma, Centrale Preneste, dal 20 settembre al 3 novembre 2024. Ben trovata. Grazie, grazie mille Federico, ben trovata. Ci presenti tutto? Partiamo con la rassegna in questo teatro che è nel cuore del Quinto Municipio. Sono spettacoli di danza, teatro e musica in programma ogni fine settimana, il venerdì e il sabato alle 21. I protagonisti di questi grandi racconti sono creature piccole, buffe, semplici, marginali, alla periferia della società e alla periferia del potere. E in effetti l'attore, pensiamo, il grande attore non ha bisogno che del suo corpo e di un grande racconto necessario. E questi di cui adesso vi parlo sono tutti grandi racconti necessari. Quindi apre il 20 settembre la festa di colori di Abbraccia Teatro, Emilio Cirazzini, con musica dal vivo e teatro su trampoli. Questa è aperta alla famiglia e anche ai ragazzi, è una festa proprio di apertura. Poi segue il 27 settembre due spettacoli la stessa serata con un mito del teatro, la mitica attrice dell'Odin Theatret, Iben Nagel Rasmussen, con due spettacoli, Like Lily alle 21 e I Coralli della Memoria alle 22. Iben è presente sia come regista che come attrice. E il 28 settembre c'è uno spettacolo con un grande attore, Jacob Olesen. Il mio nome è Bowmill, si intitola, fatto da servitore d'Inghilterra di Bowmill Rabal, e lo spettacolo è raccontato davvero col mondo visionario e poetico, e con grande maestria che conosciamo Jacob Olesen. Poi dal 4 ottobre in poi, il 4 ottobre c'è Andrea Farnetani, che è uno dei più grandi clown di circo contemporaneo italiano, con lo spettacolo Gustavo la vita, un vecchio clown, è molto tenero e divertente. Sabato 5, imperdibile Colas, lì è con Marco Baliani, questo suo Colas è un grande, veramente un grande racconto. Marco è arrivato tipo a 2000 repliche con questo spettacolo, è davvero un'occasione vederlo, rivederlo. Segue poi Giovanna Mori, un'attrice surreale, davvero divertente, ironica. Lo spettacolo si intitola Prego, la gallina, la guerra e Dio. È molto divertente e ironico, è la storia dell'incontro tra una donna e una gallina. Poi il 12 ottobre c'è Lingua da Claude Caun con Alessandra Cristiani, la grande danzatrice. E in questo spettacolo vedremo il suo specialissimo modo di concepire la danza, il suo corpo e lo spazio. E il 13 ottobre poi c'è uno spettacolo che fine ha fatto Rosmarina, sulle tracce della biodiversità. È uno spettacolo che parla appunto degli effetti disastrosi per l'ambiente rispetto alla perdita di biodiversità che sta avvenendo senza precedenti in questo periodo. Poi segue lo spettacolo di Guadalibera il 26 ottobre, Il principe delle tenebre, il testo di Fabio Traversa, ispirato a un racconto di Fabio Neurale, Il naso d'argento, con Fabio Traversa anche come attore, Valentina Greco, una bravissima attrice, e me stessa, Tiziana Lucattini. E questo è il 26 ottobre. Poi segue il 1 novembre, musica, Il Skin Deep, con Welcome to the Rock Thrower di Enzo Sisma. E infine l'ultimo spettacolo, il sabato 2 novembre, Silla Moreno con la coppia Flocchini Timpano. Timpano conosciamo, personaggio straripante nella vita come sul palco, e Elvira Frosini maestra nell'utilizzo dei linguaggi della danza e dello spettacolo. del teatro. E poi abbiamo anche 4 appuntamenti da non dimenticare pomeridiana per ragazzi, bambine e famiglie, e questo alle 16.30 invece tutte le domeniche dal 6 ottobre, quindi il 6 ottobre nella pancia di papà di Fiona Sansone, il 20 ottobre Vecchine Ayal di Miriam Bardini, grande attrice del teatro ragazzi, storica attrice del teatro ragazzi, domenica il 27 ottobre Principe delle Tenebre, replichiamo anche in pomeridiana, sempre alle 16.30 per i ragazzi più grandi. E poi Tinolo, il 3 novembre, nuovo spettacolo di Laura Nardinocchi e Niccolò Matkovic, per invece dai 6 anni. Ecco. Quindi anche bambini, famiglie e bambine sono aspettati in questa rassegna che percorre un po' tutte le età ed è aperta a tutti. Quindi 15 appuntamenti tutti ad ingresso libero, anche questo perché la rassegna è vincitrice dell'avviso pubblico lo spettacolo dal vivo fuori dal centro 2024, il progetto è sostenuto dal Ministero della Cultura, però la prenotazione è consigliata online sul sito di centraleprenesteteatro.it, calendari eventi. 20 settembre, 3 novembre, 2 novembre che finisce la rassegna per adulti e poi invece dal 6 ottobre al 3 novembre le domenicali, 4 domenicali per le famiglie e i bambini. La rassegna Youth, Young City, i grandi racconti a Roma Centrale Preneste dal 20 settembre al 3 novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Tiziana Lucattini. A presto! Grazie, a presto, grazie mille, vi aspettiamo! Con Salvo Lombardo, direttore artistico della quarta edizione di Interazioni Festival a Roma dal 22 settembre al 6 ottobre 2024, ben trovato. Grazie, grazie per l'ospitalità, salve a tutte e a tutti. Spieghiamo cos'è. Progetto che si svolge nella città di Roma e che normalmente mette insieme, congiunge e abbraccia anche varie zone, vari territori della città stessa attraverso un programma di eventi multidisciplinare, in qualche modo è anche interdisciplinare, appunto rivolti essenzialmente ai linguaggi del contemporaneo, ai linguaggi dell'arte contemporanea, come anche della danza, della performance, del teatro. E quest'anno, come anche nelle precedenti edizioni, la programmazione si sposterà lungo il crinale appunto di performance, con momenti in cui invece ci saranno degli eventi più legati alle arti visive, installazioni, ma anche con un importante programma di workshop, quindi momenti di trasmissione, di formazione e ovviamente in maniera irrinunciabile momenti di incontro, di dibattito, di approfondimento a partire proprio dagli sguardi degli artisti ospitati e anche delle parole chiave che emergono anche in questa edizione. Quanti saranno gli appuntamenti e com'è stata la scelta degli artisti? Saranno 30 eventi e sono suddivisi in 2 micro sezioni che vanno poi a comporre l'intero programma di Interazioni Festival. Una di queste sezioni è stata intitolata Ultra e un'altra sezione invece è intitolata Ctonia. La programmazione quest'anno, di cui appunto mi occupo direttamente, ha seguito una sorta di claim, un filo rosso, un filo narrativo, un filo discorsivo, un filo concettuale che abbiamo intitolato Flashback, Flash Forward, proprio un po' a sottolineare un po' questa dinamica che in qualche modo mi sembrava emergere da diversi dei lavori individuati e che in alcuni casi poi ha caratterizzato la nostra forma di invito ad altri artisti, a loro volta, ovvero una dinamica quasi di oscillazione tra passati e presente. Dico passati al plurale intendendo dire una stratificazione di memorie, di archivi, di repertori, di segni, di gesti, ma soprattutto anche di discorsi e di parole che appunto dal passato transitano verso la contemporaneità, a volte riilluminandosi e riaccendendosi di nuove prospettive, di nuovi sensi, a volte invece questi lasci di queste eredità transitano verso la contemporaneità in modo più problematico e quindi attraverso nuove parole d'ordine che invece richiedono di essere ripensate, richiedono un nuovo pensiero critico, una nuova massa critica intorno ad esse, perché poi l'obiettivo forse di Interazioni e le interazioni nominate nel nostro titolo, le interazioni che ci animano, sono questo peculiare rapporto tra prospettive soggettive, un modo soggettivo di guardare il mondo, ma attraverso la lente di avvenimenti che riguardano lo spazio pubblico e quindi tra processi artistici e margini, direi, di necessario attivismo. Questo un po' portano gli artisti e gli artisti che invitiamo. Quali saranno i luoghi, gli orari e le giornate? Il festival partirà la domenica 22 settembre e poi proseguirà fino al 6 ottobre, ma possiamo sintetizzare quest'arco temporale in questo modo. Dal 22 al 26 di settembre lavoreremo prevalentemente nel quadrante est della città, in particolare a Largo Venue, dove inauguriamo il festival proprio il giorno 22, per poi spostarci a Centrale Preneste Teatro, sempre appunto sulla Prenestina. Poi dopo una pausa di qualche giorno a fine settembre riprenderemo dal 3 ottobre fino al 6 ottobre invece in tutt'altra area della città, perché siamo in zona Marconi presso lo spazio Rossellini. Questa ultima collocazione mi invita anche a specificare la nostra rete di collaborazioni, che è una rete ormai virtuosa, importante, radicata nel tempo, in quanto con ATCL, ovvero l'Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, quindi il circuito regionale del Lazio, e con Orbita Spellbound, che invece è il centro di produzione nazionale della danza collocato nella città di Roma, siamo impegnati appunto in una collaborazione che prevede una co-realizzazione di diversi degli eventi in programma. Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Il nostro sito web www.chiasma.eu, dentro il quale troverete una sezione dedicata al Festival Interazioni, perché ho dimenticato di citare, questo è l'aspetto più importante, è l'organismo Chiasma ETS, è l'organismo che appunto sviluppa essenzialmente questa progettualità, quindi sul sito di chiasma.eu trovate le informazioni relative al festival e poi appunto di seguire anche i nostri social, Chiasma Arti e Culture su Instagram e Interazioni Festival sempre su Instagram, e ci troverete ovviamente anche su Facebook. Quarta edizione di Interazioni Festival a Roma dal 22 settembre al 6 ottobre 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Salvo Lombardo. A presto! Grazie a voi, grazie tante, vi aspettiamo. Con Emiliano Viccaro delle Clap per presentare il Festival delle Clap a Roma dal 4 al 6 ottobre 2024. Bentrovate e bentrovati a voi. Per cosa sta la sigla Clap per chi ci ascolta? Per Camere del Lavoro Autonomo e Precario. È un tentativo, una sperimentazione che ormai va avanti da circa 10 anni, siamo alla 7ª edizione del festival, ed è un tentativo di costruire un sindacato sociale all'altezza del lavoro contemporaneo, un lavoro sempre più precario, sfruttato, intermittente, lavoro povero. Un tempo questa era una condizione per un settore marginale del mercato del lavoro, ma adesso ormai da diversi anni è diventata una condizione strutturale del lavoro, e quindi noi proviamo a ricostruire diritti, forme di organizzazione e rivendicazione all'altezza di questa composizione sociale. Ovviamente non ci riteniamo sufficienti, non abbiamo nessuna voglia di competere con altre esperienze, ma pensiamo invece di lavorare in rete per fare in modo che si possano costruire nuovi diritti su questo terreno. Come si caratterizza questo festival? È un festival che alternerà talk, incontri pubblici con momenti di produzione culturale, con spettacoli, momenti musicali. Partiamo il 4 ottobre a Casale Garibaldi con un dibattito intorno alle questioni generali di questo tempo storico molto drammatico. Quindi dentro il regime di guerra, dentro l'economia di guerra, parleremo di lotte politiche e sociali contro l'estrema destra e l'estremismo di centro. Questo passaggio storico lo faremo con giornalisti, con interlocutori politici, cercando di capire quali sono le traiettorie per costruire un'alternativa a questo mondo in fiamme, insomma, questo mondo che oscilla tra guerra e sfruttamento. La serata sarà completata da uno spettacolo teatrale di Bastonini Baronio, Furore, dal capolavoro di Steinbeck, che appunto ci sembrava un modo adeguato per contribuire dal punto di vista artistico alla prima giornata del festival. Come si articoleranno queste 3 giornate? Si riprenderà il sabato ad Acrobax, faremo 2 giornate, il 4 e il 6 al Casale Garibaldi e il 5 ad Acrobax. Ad Acrobax ci sarà un primo dibattito alle 16, sindacalismo alla prova del regime di guerra, che è un confronto tra esperienze di sindacati di base e indipendenti. per provare a costruire una relazione, una rete, una piattaforma comune del lavoro sfruttato e precario dentro questo contesto così complicato. Successivamente, verso le 19, perché prima daremo spazio a tutti i compagni e le compagne che vorranno, dove andremo insomma anche noi, partecipare al corteo per la Palestina, si riprenderà alle 19 con un dibattito al titolo Un giubileo di precarietà. Proveremo ad affrontare la sfida del giubileo con tutte le contraddizioni urbanistiche, sociali, economiche, a partire dal punto di vista dei lavoratori e lavoratrici dello spettacolo e della cultura, che dentro questo giubileo insomma saranno uno dei fronti di maggior sfruttamento, ma saranno anche dei fronti che saranno più utilizzati per valorizzare la città in questo anno giubilare. E poi si finirà con una importante serata musicale, Circus, che vedrà diverse ore di musica con tanti artisti DJ che hanno messo insieme le proprie competenze, le proprie capacità per sostenere questa serata, anche le casse delle club. Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Su Facebook, alla pagina delle Club Camere del Lavoro, oppure sul sito club-net.info, dove troverete tutti i dettagli, compresa anche la giornata finale, che insomma si chiuderà con un bellissimo spettacolo del collettivo La Furibunda. Però insomma, sul sito, sui social, troverete tutti i dettagli dei dibattiti, degli incontri, dello spazio ristoro, di tutte le forme di finanziamento per un sindacato così sociale e mutualistico che ne ha bisogno. Settima edizione di Clap and Go, Festival del Lavoro Vivo, a Roma dal 4 al 6 ottobre 2024. Un saluto e un ringraziamento ad Emiliano Viccaro delle Camere del Lavoro Autonomo e Precario. A presto! Grazie a voi! Con Eva Mucide, Le donne resistenti dell'Ottava Zona, per presentare il libro Ottava Zona, pratiche di resistenza e reti clandestine a Roma. Ben trovata. Salve, buongiorno, grazie dell'invito. Presentiamo questo libro, cos'è? Questo è il frutto di un lavoro collettivo, innanzitutto. Io sono una delle autrici, insieme ad altri 10 autori, ed è frutto di un lavoro di ricerca del collettivo di Bella Storia, che nasce nel 2017 e che è riuscito a promuovere questo lavoro, che a noi piace pensare sia un lavoro di restituzione delle storie ai luoghi e alle persone da cui quelle storie provengono. E quindi all'interno vi trovate un po' di tutto. Io mi sono occupata delle donne resistenti dell'Ottava Zona, appunto. C'è Guido Farinelli, che ha fatto un lavoro di ricerca sulle osterie come luoghi di aggregazione, ma anche come luoghi di sovversione, ribelli in osteria. C'è il caso Stampacchia, trattato da Luca Saletti. C'è il lavoro di ricostruzione di Aldo Benassi su Valerio Fiorentini. Il lavoro sulle vespe al Quadraro di Riccardo Santoni, che è tra l'altro anche uno dei due curatori del volume. E quindi insieme a questi lavori l'idea era quella un po' di condirli anche da un modo diverso di raccontare la storia. Quindi abbiamo due illustratori eccezionali, che sono Giulia D'Ottavi e Claudio Civitella, che hanno curato delle illustrazioni bellissime nel volume riguardo proprio alcune delle storie che ci trovate. Claudio riguardo la storia di Riccardo Sansone e Giulia D'Ottavi riguardo una delle mie due storie nel volume. Insomma, un complesso lavoro di ricerca, sì. Ecco, appunto, come era nato tutto e come si è articolato? Dato che siamo un gruppo di storici un po' eterogenei, tra l'altro non solo storici, che hanno contribuito a questo volume, volevamo in qualche modo mettere un po' tutto il nostro bagaglio di ricerche pregresse in un lavoro nuovo, che si occupasse proprio in maniera specifica dell'Ottava Zona, che è un lavoro di ricerca in realtà che fino a quel momento era piuttosto assente, cercando di allontanarci dalla narrazione della grande resistenza per focalizzarci sulla storia dei quartieri, la storia degli abitanti di quei quartieri e anche gli episodi di micro resistenza che sono stati trascurati, ma invece sono stati fondamentali nella creazione della grande resistenza ufficiale in qualche modo. Quindi l'intreccio tra la grande guerra di liberazione e questa miriade di piccole ma anche enormi guerre di liberazione, anche personale, che si combattono anche quotidianamente nei quartieri di Roma e in questo caso nelle zone dell'ottava zona. Quindi ci siamo messi insieme e abbiamo cercato di trarre il meglio ognuno sulla base delle proprie inclinazioni, sulla base dei propri interessi. E quindi grazie al lavoro di Ampia, dell'Associazione Nazionale dei Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, che ha promosso e prodotto proprio materialmente il volume, siamo riusciti a tirare fuori questo lavoro di ricerca, che è un lavoro di ricerca frammentato, tra virgolette, in cui ognuno si occupa di un argomento diverso, con un taglio diverso, da punti di vista diversi, ma che è anche un lavoro che mette insieme, cioè che ricostruisce una sorta di filo rosso la storia dimenticata dei nostri quartieri e della periferia est di Roma. Insomma, si articola così, con l'obiettivo un po' ambizioso di ricostruire veramente una parte mancante di una storia che fino a questo momento è un po' mutila. L'ottava zona, che area interessava? L'ottava zona comprende i quartieri dell'attuale Roma Est, quindi Quartizzolo, Centocelle, Quadraro, Tortignattara, Cestuta, Alessandrino. Il lavoro, tra l'altro, nasce proprio, il collettivo Bella Storia nel 2017 nasce proprio dal lavoro di ricerca prevalentemente di Riccardo Sansone per far ottenere a Centocelle la medaglia d'oro per la resistenza. Effettivamente Centocelle e il Quadraro sono i primi due quartieri di Roma ad ottenere questo riconoscimento, quindi corrisponde ai quartieri che adesso si trovano tra la Prenestina e la Casilina, ed è una zona fondamentale, è dove passano gli alleati, è la zona dove alcuni dei partigiani più noti raccontano che si creano delle zone libere dai fascisti. Anche l'indagine su questo tipo di verità storica era vero? Ci fossero delle zone libere completamente dai fascisti, dove i fascisti non entravano, oppure no, oppure sono parte di una narrazione diversa, tratti mitica di quei giorni. Quindi l'approfondimento si snoda proprio sui racconti anche del vicinato, delle piazze, delle osterie, dove non solo i sovversivi ma anche la gente di tutti i giorni si incontrava, tra chi solidarizzava con i partigiani e chi invece no, e chi invece spiava, e chi invece faceva le delazioni, e chi invece si scontrava anche fisicamente ogni giorno. Quindi la storia si articola in quest'area qua e non finisce qui in realtà, perché per esempio uno dei miei lavori di ricerca, ma non solo, si snoda anche in storie che sono precedenti all'occupazione tedesca di Roma. C'è la storia di Maria Andreani, di questa donna vittima di violenza domestica da parte del marito che abita a Tortignattara, siamo nel 1931, e che articola e fa delle mosse ingegnosissime per riuscire a liberarsi da questo matrimonio abusante, e viene arrestata e condannata al confino di polizia, poi viene scagionata. Insomma, c'è tutta una storia davvero incredibile e che si colloca prima dell'occupazione tedesca di Roma. Però il nostro obiettivo era anche raccontare queste micro storie di resistenza, di resistenze più esistenziali, di un antifascismo più esistenziale, se vogliamo, che però è stato ugualmente importante e forse ugualmente trascurato. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Il libro lo trovate su Edizioni Ampia, www.ampia.it, anche eventualmente per spedizioni nel resto d'Italia, insomma. Il libro collettivo Ottava Zona, pratiche di resistenza e reti clandestine a Roma. Un saluto e un ringraziamento ad Eva Mucci, delle donne resistenti dell'Ottava Zona. A presto! Grazie a voi, a presto, un saluto. Eccoci all'agenda per gli appuntamenti della settimana relativi al teatro e agli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio, e torniamo in presa, in realtà, perché qua siamo strapieni di piccole e grandi cose questa settimana, e partirei subito dalla riapertura, la prima settimana del Teatro Tor Bella Monaca, insomma, che è la nostra apertura ogni settimana, quindi riprendiamo ad aprire con loro. Si comincia con la felicità, e tu dirai, insomma, la felicità andrebbe perseguita ogni giorno per tutto l'anno, però insomma intanto cominciamo bene, no? La felicità, la produzione con la regia di Gianfelice Imparato, dal 4 al 6 ottobre, l'attore Eric Assus con questo ruolo, insieme appunto l'autore di Cassus, e Gianfelice Imparato sarà sul palco insieme ad Alessandra D'Ambrosio. sono due personaggi non più giovani che passano una notte insieme e al risveglio affrontano le insicurezze di chi non sa se si tratta di un nuovo inizio, un incontro casuale, insomma, questi fraintendimenti, cioè insomma, è il lavoro di Gian Felice Imparato. Quindi 4 ottobre a Tor Valla Monaca, il 5 ottobre c'è anche un testo dell'Utter di Vladimir Apolshansky, un monologo, One Man Show con il linguaggio del teatro visivo, Nimolo, danza, la musica, questo sabato 5 ottobre, mentre invece conclude la settimana il 6 ottobre un lavoro dedicato a spettatori più giovani con i Piantastorie e la fantastica del signor G, intendendo non in questo caso Gabber, ma il signor G, Gianni Rodari, una lettura animata delle sue famose favole al telefono. Poi andiamo a vedere cosa succede alla Domus Aurea, perché continua a Moisai la rassegna delle voci contemporanee in Domus Aurea per la terza edizione quest'anno. Questa settimana andremo a vedere ben tre lavori nel fine settimana. Si comincia venerdì 4 con Elisabeth Sorico Wolf. La regia di Giulia Spattini, curante il disegno sonoro, la ideazione in generale, ed è un lavoro in quota Balletto Civile, Emilia Romagna Teatro tra i produttori, quindi sicuramente siamo nell'ambito della danza, della performance, e siamo su una scena che è un campo di battaglia, un ring contemporaneo. La sfida è prendere posizione, quindi scegliere, costruire il proprio stare all'interno di un luogo. Questo vedremo con Elisabeth il 4 ottobre. Seguire il 5, sempre in Domus Aurea, La linea fuggita con Eddie, Michela Cescon, anche un periodo di altri attori, Giulio Vizioli, Livia Cangialosi. Questa La linea fuggita è un testo firmato dalla grande talento di Anna Banti. La storia racconta Lavinia, una ragazza orfana all'inizio del Settecento, viene raccolta all'ospedale della Pietà di Venezia, impara a suonare e cantare, viene maestra di coro, portata alla composizione e che poi insomma verrà portata a fare dei gesti un po' particolari, sostituire le proprie partiture, le partiture da copiare nella composizione con le proprie invenzioni musicali, e questo insomma, la porterà a un contatto un po' particolare con il precettore dell'istituto, cioè Don Antonio Vivaldi. Mentre invece il Polifemo innamorato, firmato da Giovanni Calcagno, che sarà in scena appunto ancora la Domus Aurea, una serie di quadri ispirati alla narrazione in greco, siciliano, romanesco, veneto e napoletano, che traggono spunto dei testi classici Teocrito, siracusano e di Ovidio, legati appunto a questa figura del ciclope, appunto, con il tema innamorato. Quindi questo per quanto riguarda appunto la Domus Aurea. Andiamo avanti, perché comincia questa settimana, precisamente il 3 ottobre, la rassegna Trend, con uno spettacolo in particolare, e si tratta di Ismene Antigone, dal 3 al 6 ottobre, Fail Sister, firmato dalla penna di Contoibin, la regia di Carlo Milionerici, che appunto apre questa edizione numero 23 di Trend, nuove frontiere della scena britannica, testi di autori contemporanei di lingua anglosassone, ed è l'Antigone di Sofocle ma vista dalla prospettiva di sua sorella Ismene, e questo è quello che può dire Ismene di Antigone, lo sono sempre chiesto, e questa sua personale versione della spinta lanciata dalla sua sorella nei confronti dello zio, cioè il re di Tebe Creonte, mentre insomma sappiamo di Antigone che cercherà la sepoltura dei propri fratelli morti nello scontro politico guerresco per la conquista, e quindi c'è il dialogo tra il potere da un lato e il popolo dall'altro. 3-6 ottobre, Ismene Antigone di Contoibin, Carlo Milionerici, a Trend, Teatro Belli. Allora, sull'esordio di Domenico Modugno, Mario Incudine con la regia di Monio Vaghi e Giuseppe Cutino se ne va al Teatro Lo Spazio. Siamo 3 e 4 ottobre, quindi mercoledì, giovedì, no, giovedì, aiuto, si tratterà di giovedì, venerdì, ecco, sono fatta, e Mimì da sud a sud con i testi di Sabrina Petix. Quindi, insomma, un viaggio da un sud all'altro, quello che Domenico Modugno fa in qualche modo dalla Puglia fino all'identificarsi con il siciliano. Noi sappiamo che il radio già inizialmente con Modugno fu costretto a fare il siciliano per fare successo, il successo l'ha fatto, e però è diventato un po', diventato anche mezzo siciliano ormai nel tempo, nell'immaginario collettivo. Quindi da sud a sud, 3 e 4 al Teatro Lo Spazio. Ha già debuttato e sarà in scena ancora per poco, cioè stasera e domani, è debuttato ieri, Il cuore debole di Antonio allo Spazio Diamante, il testo di Simone Giacinti con sound design di Armando Valletta, in scena questo Giacinti con 3 altri attori, la regia di Francesco Giordano. Si tratta di un lavoro dedicato allo sport, o meglio ancora, dedicato al tifo calcistico. Siamo il 4 giugno del 99, un gruppo di amici parte in direzione Milano per seguire la Roma in trasferta, e accadranno dei fatti che ci portano a un caso particolare, insomma, che viene spesso ricordato sugli spalti, soprattutto del tifo romanista, perché in quella trasferta prenderà la vita il giovane Antonio De Falchi, che è rimasto poi un po' nell'immaginario del tifo a Roma, come un po' un simbolo del tifo organizzato, del viaggio dei tifosi in trasferta. Quindi fino al 2 ottobre Lo Spazio Diamante, Il cuore debole di Antonio. Procediamo ancora un pochino oltre, vediamo un po' di cosa possiamo ancora parlare. Ecco qua. Allora, Teatro Vittoria, Matilde, l'amore proibito di Pablo Neruda, 3-6 ottobre, la regia di Sebastiano Somma. Sono tutti gli eventi che contro le convenzioni sociali e direzione della forza dell'amore spingono, insomma, Pablo e Francesca precisamente a incontrarsi e mantenere il proprio incontro. Pablo Neruda, Matilde Urrutia, amanti e sposi, insomma, in questa grande storia d'amore che per molti anni fece girare in vari paesi del mondo. L'autore del testo è Liberato Santarpino. In scena con Sebastiano Somma c'è Morgana Frascella, 36 ottobre, Teatro Vittoria. Ancora, è ancora un sacco di cose che voglio dire ancora. Apre la nuova stagione del Teatro Ateneo. E questa è una grande notizia, perché insomma il teatro a Roma ha gran bisogno, il Teatro Universitario della Sapienza di Roma. Nuovo Teatro Ateneo che comincia la stagione, che andrà avanti fino al 19 dicembre. Il primo spettacolo in cartellone sarà questa sera alle 20.30, lo porterà in scena Davide Enia, e ha un nome e un cognome, Roberto Baggio. Quindi ancora il calcio parla da protagonista in questa settimana teatrale, nel racconto di Davide Enia, che già al calcio aveva dedicato un pensiero anticamente con questo famoso Italia-Brasile 3-2, spettacolo in cui ricorreva, insomma, uno degli incontri più importanti della storia della nazione italiana di calcio, quello appunto che avvenne in Spagna nel 1982 durante appunto i mondiali poi vittoriosi. Per quanto riguarda l'Italia, Roberto Baggio è un eroe, forse un altro degli eroi tragici che ricorrono nell'epoca contemporanea, a partire dal recente passato. Un eroe tragico e non vincente a tutti gli effetti, perché insomma non sarà il suo famoso rigore del 94, insomma, che terminerà al di sopra della traversa, e quindi lì sarà un altro Italia-Brasile, quello appunto che ci ricorda Roberto Baggio, ma comunque uno dei giocatori più talentuosi che l'Italia abbia mai visto, probabilmente il più grande, o quasi, insomma, tra i più grandi sicuramente, ecco, non mi voglio allargare. Quindi, stasera Roberto Baggio, Davide Mia al nuovo Teatro Ateneo. Mentre invece al Teatro Curio Camillo, domenica prossima, 6 ottobre, andremo a vedere uno spettacolo che racconta la storia di arte, di lotta, di resilienza, di artisti e gentileschi. Lo spettacolo di Controtempo Theater sarà alle ore 18, attenzione, una grande pittrice, talentuosa, ma anche un'icona, femminista, rivoluzionaria, un'artista innovativa per quello che sono donare alla figura femminile, anche un po' per il tempo in cui viveva. Stiamo parlando dei primi del 1600. Quindi domenica 6 ottobre al Teatro Curio Camillo con Artemisia Gentileschi. Un nuovo teatro che si chiama Teatro degli Eroi, che io forse non è il nuovo, ma io non lo conoscevo, mi dicono presenti questa nuova stagione e vabbè, questo nuovo teatro si chiama Via Girolamo Savonarola 36, quindi chiunque volesse andarselo a cercare. E Circus Dark Queen, la regia è quella di Stefano Napoli, sulle notte in qualche modo di Antonio Cleopatra e Bello Shakespeare, e appunto andremo a ricostruire questa vicenda in una lettura chiaramente moderna. Lo spettacolo aveva già debuttato nel 2010, ma insomma una serie di vicissitudini torna fino a noi, ispirato appunto a Cleopatra, insomma, la Dark Queen per un po' per eccellenza nella nostra storia del mondo. Quindi 4 ottobre, trilogia Dark Queen, il primo è Circus Dark Queen, poi vedremo altri spettacoli più avanti al Teatro degli Eroi. C'è ancora da dire, perché al Centrale Brenese continua la rassegna di un degli antichi, ricordo, a ingresso gratuito, ingresso libero, e questa settimana andremo a vedere il Circo Contemporaneo venerdì 4 ottobre con Gustavo La Vita di Andrea Farnetani, un clown che pensa di non poter eseguire più neanche un numero semplicissimo, e quindi è triste. Mentre invece sabato 5 ottobre andremo a vedere l'ennesima messa in scena dello straordinario Colas di Marco Baliani, dal testo di Iris von Kleist, Michael Colas, con la regia di Maria Maglietta, la storia di un sopruso che mette in crisi il senso del diritto, della legge all'interno della società civile. E per quest'oggi è così importante, quindi questo andremo a vedere al Teatro Centrale Brenese per quanto riguarda questa settimana, e poi non resta che gettarci, non nel fuoco per carità, ma all'interno della settimana di Roma Europa Festival. C'è un debutto assoluto ed è quello di Daniele Timpano e Elvira Frosini, che debutteranno al Teatro Sala Umberto proprio per Roma Europa Festival. Questo avverrà giovedì 3, saranno in scena fino al 6 ottobre con Tanti Sordi, Polvere di Alberto, insieme a loro Marco Cavalcoli, Barbara Chicchiarelli, progetto scritto insieme a Lorenzo Pavolini, appunto sulla grande icona novecentesca dell'italianità, non solo della romanità, dell'età media, diciamo, secondo quello che il cinema ci ha proiettato nella nostra mente. E quindi andiamo a vedere quali dei tanti sordi alla Sala Umberto presenti in paricotteranno dal 3 al 6 ottobre. Un altro spettacolo che ci ha debuttato lo scorso anno a Roma Europa, ma che torna e lo farà precisamente da questa sera fino al 4 di ottobre al Teatro Argentina, è La Ferocia, testo di Nicola La Gioia, ormai qualche anno fa, con la regia di Vico Quarto Mazzini, Michela Tamburi, Gabriele Paolo K, appunto ci porterà all'interno di una storia italiana narrativa che appunto inizia Treno Strego 2015, in adattamento di Linda Dalisi, per parlare un po' della società occidentale, siamo nella periferia barese, nella ricca periferia barese, dove un costruttore pugliese ha dato vita a un'impresa eccezionale, insomma, ha fatto successo, ha fatto i soldi. C'è però un problema, una situazione nuova: la morte della figlia Clara, trovata libera, ricoperta di sangue sulla provinciale tra Bari e Taranto. Questo è il motivo scatenante di una serie di avvenimenti che andremo a vedere appunto al Teatro Argentina dal 1 al 4 ottobre. Ma il programma di Roma Europa Festival questa settimana continua con Anni Duce, la rassegna di danza e teatro italiano che Maura Teofili cura al Mattatoio, su appunto il giovane teatro. Andremo a vedere prima di tutto, domani dopo domani, 2 e 3 ottobre, Giulia Scotti con Quello che non c'è, che ha vinto il recente premio Tutto Teatro 2023, tanti cappelletti, e uno spettacolo si immerge nella storia della famiglia della sua autrice e lascia emergere un legame da solo. La storia di una zia, dice lei, come l'ho saputa da mio papà, la storia di un uomo che vuole salvare sua sorella dalla morte ma non ci riesce. E questo più o meno è il cuore del discorso, del rapporto, del racconto di un padre a sua figlia che nell'immaginazione declina attraverso i riferimenti al passato. Quindi 2-3 ottobre, Quello che non c'è per Anni Luce, segue sempre 2-3 ottobre La traiettoria calante, Pietro Giannini, genovese, che ci racconta il crollo del Ponte Morandi il 14 agosto del 2018 a Genova, sotto quelle macerie dove sono morte 43 persone. E ci sarà certo, un'ispirazione di teatro di narrazione, di teatro civile, ma anche una satira crudele di un pezzo di storia del nostro paese, insomma, tra vittime e colpevoli. Quindi teniamo presente anche per i nostri microfoni questo spettacolo che, insomma, ha dell'interessante. Continua anche Power by Rap, ma il 3 ottobre è la prima nazionale di Claudio Larena, Stiamo lavorando per voi, ci scusiamo per il disagio, mi scuso anch'io per il disagio, perché Claudio Larena appunto è all'interno di Anni Luce, anche lui tra performance, installazione, danza, la creazione si manifesta nel processo dell'atto creativo, creando quello che è un luogo di lavoro, quindi cartelli stradali, pesce arancione, operai che mangiano panini vecchi e guardano il cantiere, e insomma a tutti gli effetti un cantiere, stiamo lavorando per voi. Alle 22.30 del 3 ottobre per Anni Luce, appunto, ancora Claudio Larena. Anni Luce si declina anche come Powered by Rap, cioè in progetti, i tre progetti selezionati che vedremo durante il weekend, sabato 5 e domenica 6, in orari diversi, sito romaeuropa.net per gli orari precisi. Vedremo la compagnia Conferenza Balam con pezzo 2 con 10 Siante, dedicato insomma a un rapporto ossessivo tra un ragazzo e il mondo vegetale. Poi Devozioni per occasioni di emergenza, Sofia Naglieri, che ci porta a parlare del dolore della malattia, mentre invece Transemine di Dimore Creative è un progetto civile, appunto, che racconta la storia di Giuseppe Uva, che probabilmente in questa radio ricorderemo in tanti, un falegname di 43 anni fermato dai carabinieri la notte tra 13 e 14 giugno del 2008 mentre transennava una via di Varese. Il mattino venne trovato morto in ospedale. 10 anni fa hanno aperto il processo per chiarire la morte di Giuseppe Uva, che si è concluso con la soluzione degli imputati nel 2019. Infatti poi nel 2021 la Corte Europea dei diritti umani ha dichiarato ammissibile il ricorso della famiglia, però non è successo niente. Chissà che questo spettacolo non ci faccia comprendere un po' meglio cosa è accaduto in quella occasione. Questo per ciò che riguarda insomma i progetti di Roma Europa Festival e tutto quello che c'è durante questa settimana, che direi non è poco. Ciao a tutti! Questa è Tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.